Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti signori miei, è domenica, una giornata molto importante, il 29 ottobre. Il 29 ottobre di tanti anni fa nasceva uno straordinario personaggio che ci ha regalato tanto con la sua voce, con i suoi testi, con la sua figura. E quest'uomo era, è e rimarrà per sempre Rino Gaetano. E proprio per questo ho al telefono due persone che lo raccontano molto bene. Una non c'è più, immagino, in questo momento. Non so chi abbiamo. Io ho chiesto un collegamento con Anna Gaetano e con Claudio Santamaria. Anna, ci sei? Sì, io ci sono. Eccoti, Anna. Allora, mio fratello non c'è? No, tuo fratello c'è. No, Claudio Santamaria. Ah, certo, il fratello acquisito da questo punto di certo. vista. C'è anche Claudio, è caduta la linea in questo momento. Intanto speriamo che non si è fatta male. No, madonna, Anna! Anna, senti, come si vive questa giornata della festa di tuo fratello? Chissà quanti compleanni insieme al grande Rino tu hai passato. Sono ritornata adesso dal cimitero. Ecco. Sì, anche perché come tutti gli anni c'è tanta gente, si mettono a suonare, cantare là. Abbiamo recuperato Claudio Santamaria, Anna, eccolo qua. Meno male. Claudio, digli a mio fratello che non facesse tanto tardi stasera. Anna. Glielo stai dicendo, sta buona, Anna. Ciao come? Claudio, grazie di questa tua testimonianza. Mi sembra giusto che c'è Anna, la sorella di Rino Gaetano, e ci sei tu, che sei stato un po' quello che l'ha raccontato in televisione, quello che bellissimo. Ha sofferto e l'ha fatto molto bene. Sì, perché non è facile, Claudio, una grazie. Cosa del genere. Un'avventura del genere, e ha anche cantato. Cioè, ti vai a misurare con uno che aveva una voce particolare, sì. importante. Che lavoro hai fatto sì. pure lì, Claudio? Tu ormai ti capitano solo personaggi dove ci devi lavorare sopra. Non c'è nessuno. Ma per forza, quello è il minimo. Anzi, me li cerco, ma il fatto che Rino aveva una voce media come tonalità, non un po' come la mia, quindi quando andava in alto sgranava. Sì, è vero. Anche io quando vado in alto sgrano, e lui c'aveva solo quello che mi diceva anche il suo amico Bruno Franceschelli, mi diceva Sperino spigneva come un matto, diceva, quindi la cosa era lì di potenza, di proprio di, però di tu, quello che c'hai da dire dentro, no? Di tirare esatto. fuori quella rabbia, quel racconto vissuto, come la voce che hanno i neri d'America quando fanno un rap oppure quando cantano qualcosa, c'è qualcosa nelle corde vocali che esatto. racconta una storia, che c'ha la terza dimensione. Lo stomaco, la pancia. Sì, c'è tutto quanto. Ma, però devo dire che pure te, per esempio, quando hai cantato Gig Robot, quella canzone sei riuscita ad essere un morbido. Sai che è stato bravo? È stato bravissimo, sì. Io ho detto più volte, ma no, anche perché è quel Gig Robot come l'hai cantato, è come quando i Led Zeppelin cantano un pezzo lento o i Deep Purple cantano un pezzo lento. C'è una forza. No, ma è così, Claudio, c'è una forza interiore enorme. Cioè, se uno che fa il pop leggero, ok, e se fa un pezzo pesante non ci riesce. Ma quando uno fa il rock vero, pesante, importante, fa una ballata, arriva dentro al cuore, arriva nella pancia. E così hai fatto con Rino tu. E poi Anna, insomma, lo conosceva bene per giudicarti. Lei, non tanto io ti giudico artisticamente. Anna credo che abbia giudicato anche il carattere. No, lui è stato bravissimo, proprio, guarda. Anche se alcune cose non erano, diciamo, vabbè, quella è la sceneggiatura. Appropriate a Rino. Sì, quella però è la sceneggiatura. Lui è stato straordinario, veramente. Guarda, gli dico grazie pure adesso. Che succederà, Anna, il 2 giugno? Mi hai detto prima per telefono quando ti ho chiamato. A parte la sfilata dei giugno. Militari al centro storico. Il 2 giugno, mio fratello Santa. Tuo fratello? Eccoti, è caduta Anna. È caduta stolta. Cioè, mi diceva prima che il 2 giugno sono i 40 anni della prima performance a Sanremo di Rino Gaetano. Insomma. Ah, perché il 2 giugno è anche la data della sua morte. Oltretutto, pensa quante cose. Sempre la festa in piazza. Sì, mi ricordo che un paio ci ho partecipato. Quest'anno toccherà sia te che io saremo precettati. Io tu canti, però io presento. Cioè, Anna, ma volentieri. Anna, sei tornata? Sei tornata, Anna? Anna, non si potrebbe fare il 2 giugno tutti a cantare al cimitero e invece il 29 il compleanno fare il festone? Sì, infatti anche questo non è una brutta idea, perché uno vive sempre questi momenti estremi, no? Del trapasso, eccetera, in maniera triste, e noi dovremmo imparare invece d'oltreoceano, quando c'è una grande festa, dove si pranza o si cena tutti insieme, dove si racconta l'uomo o la donna che ci ha salutati. Infatti ho deciso l'altra volta, non so se sei d'accordo, Carlo, non è per egocentrismo, ma io voglio essere presente al mio funerale, non so che ne pensi. Vuoi essere presente? Al mio, sì. Cioè, nel senso, se dovessi avere una malattia o qualcosa che mi rende logico, dico, ok, speriamo di no, però se dovesse succedere uno dice, vabbè, visto che sto andando verso organizzo questa grande festa con gli amici, con quelli che ti hanno voluto bene, e così ascolti, è un po', non so, non riesco a capire se è egoismo, egocentrismo, mania di protagonismo anche in questo caso, oppure un gioco alla... Ma secondo me farla pure prendere bene, nel senso che poi uno se ne sta... È figo, andando, no? È esatto. Come se andassi a vivere in Australia, diciamo, esatto. A vivere in montagna, no? Grazie, Cla, che mi hai dato sta giustificazione a sta follia. Questa me la gioco sicuramente così. No, beh, sai, c'è una famosa poesia che a volte si legge nei funerali, che si rifiutano solo dall'altra parte, no? Mm-hmm. L'angolo, io sto lì, ma sono qui dietro, non... solo perché non mi vedi più, non è che non ci sono più nel tuo cuore, quindi... Ci sono, infatti lo stiamo tenendo io, anche noi, per esempio, stiamo facendo questo. Ma la stessa cosa, Man on the Moon, l'hai visto, quello con Jim Carrey, che meraviglia. Certo. Che anche lui appare al suo funerale, alla fine, con un filmato, e dice, voi ci credete? Sono davvero morto. Che poi c'è, narra la leggenda, che sembra che sia ancora in giro. Senti, questo... Brutti e cattivi, sporchi, che assomiglia al titolo Brutti, sporchi e cattivi. Vuole essere quello, certo. Beh, un po' omaggio anche. Cattivo, sì, Claudio. No, lui è brutto, è brutto e basta. Brutto, ah, tu fai il brutto e basta. Ammazza, il brutto brutto lì, ma è brutto brutto, eh. Io sono quello più buono, poi alla fine. Sì, quello sì. Quello sì, ma sei brutto. I cattivi ci stanno, qualcuno ma mi suggerisce, siamo tutti pure un po' brutti e cattivi, Claudio, brutti e cattivi. Fatti male pure. Dottor Santa Maria, qualcuno mi ha suggerito non buono ma bono, quello più buono. Noi abbiamo una redazione alla romana, un gineceo di donne, per cui hanno suggerito non è soltanto quello più buono ma è quello più buono. Non mi hanno mai detto una cosa del genere a me, ma infatti per loro Radio 24 finisce qui. Cioè, me devo difendere in qualche modo, ma non ho mai fatto un complimento del genere. Anna, dicevamo questo e poi ci salutiamo. Il 2 giugno, mi ricordava anche Claudio, che non soltanto è il quarantennale della prima performance a Sanremo, ma anche il giorno della sua dipartita. Sì. Per cui sarà una festa grande. Beh, penso sì, sarà doppia, Pino. Ma il nostro comune di Roma aiuterà questa giornata? Tanto noi due. Dove si farà? Ci metteremo d'accordo, ti rinnovo le cose poi. Anche a Claudio. Claudio? Claudio, un bacio grosso, grosso, grosso, da mo che non ti vedo più. Come fai tu? Pure a me mi manca tanto. Il 2 giugno ci devo essere. Il 2 giugno saremo precettati, va bene. Allora, mentre ci salutiamo, io voglio far partire la voce di Rino su una canzone poi non sua, però con un cuore. Sì, a mano a mano. Sì, dai. Sì, eccola. Beh, anche un po' sua. Sì, anche sua, assolutamente. Hanno fatto, vabbè, un programma e c'era uno che lo prendeva parecchio e infatti ha vinto la serata. Eh sì, ti ripeto. A mano a mano. Sì, ma chi ha vinto su Rino Gaetano è Claudio Santa Maria tutta la vita. Non ce n'è per nessuno. Grazie. Allora, signori, grazie, miei, Claudio, tanta merda, tanto in bocca al lupo, e merda, continua così. Merda. Stai facendo un percorso meraviglioso. Grazie a te, Claudio. E anche a te, Anna. Un abbraccio forte, grazie, da tutti, grazie, quelli, grazie, che ti amano. Ciao, grazie, ciao, signori, ciao, miei. Claudio, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, Claudio. Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte risempre più vera, e non come adesso nei sabato sera, ma dammi la mano che torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Questa è proprio la canzone che, se voi l'ascoltate dal bravissimo Riccardo Cocciante, vi rendete conto che spinta emozionale ha in più da questo punto di vista la voce di questo parliamo, di Rino Gaetano. Ringrazio ancora Anna Gaetano della sua testimonianza di questa giornata di tanti anni fa, quando Rino veniva al mondo e c'è rimasto, perché noi non lo manderemo mai via così tranquillamente. E Claudio Santamaria, attore straordinario davvero, uno di quelli che veramente non ha fatto scorciatoie e che ci regala sempre una performance interessante. Anche nel doppiaggio, devo dire, è riuscito all'inizio con un po' di difficoltà, perché non era il suo mondo, ma piano piano sta prendendo una confidenza molto importante. Ma quello che ho al mio fianco di confidenza col doppiaggio ce n'ha da vendere, perché è stata la prima persona che io ho incontrato nella mia carriera di doppiatore 37 anni fa, e lui è Gianni Bersanetti. No, benvenuto, non dire così, Gianni. Pino. È così. Non mi ricordare quei momenti. No, ma è così, caro Bersanetti. Sembra ieri, e allo stesso tempo sembra una vita fa. Ma è così. Che belli, che momenti. Quando ripensi a tutte le cose, vivi con dissolvenze e stacchi come in un film, no? Sì, esattamente. Ma è così, ma è già volato, è già passato, invece... Ogni giorno è molto lungo. Ogni giorno è molto lungo, però t'ho detto, viviamolo quotidianamente. C'è un dualismo. Qualcosa che sembra ieri, in certi giorni sembra lontanissimo, e qualcosa che è lontanissimo magari sembra ieri, il giorno successivo. Vedete com'è entrato ormai nel personaggio di X-Files? Ormai ce l'ha dentro ormai, la verità è là fuori. Capito? E infatti io me lo sento subito. Lo pronunci tu, perché è il tuo attore che doppi da 35.000 anni. Io, come si pronuncia? Come io mi auguro pure io che si chiami David Duchovny. Però alcuni americani dicono Duchovny col K. Altri dicono Duchovny. Ah beh, quindi, uno dei due è. Lasciamo a, esatto, a loro. Allora, io intanto saluto e do il benvenuto a Nancy, che oggi abbiamo una figura femminile come tecnico del suono, la nostra tecnica del suono, brave come sempre le donne quando si mettono al posto nostro, ed è anche bella, devo dire, per cui meglio di Valerio, di Alessandro, di tutti quelli che si sono alternati. Io rimarrei così, perché dall'altra parte del vetro io per due ore guardo dritto davanti a me. E averci Valerio, Alessandro, insomma, non è... Ovviamente sto giocando. Saluto a Rachele, la caporedattrice di Se Stessa, e dall'altra parte del vetro i miei straordinari autori Mauro Meconi e Alessia Navarro. Saluto anche Milano per la messa in onda, perché siamo tanti, siamo tantissimi, e li ringrazio. Ovviamente è un gioco di squadra, questa radio è una radio importante, una radio che dà voce a tantissime, declinandole in tutte le sue direzioni. Allora ascoltiamolo, David Duchovny. O Duchovny. Ci tengo a congratularmi, ecco, con voi. Avete raggiunto l'obiettivo che molti prima di voi hanno mancato. Un proiettile in mezzo agli occhi sarebbe stato mille volte più onorevole. Mi avete insegnato parecchio in questi 9 lunghi anni. A tenermi per me le mie vittorie, visto che nessuno segnava il punteggio. A intuire che i falsi non temono la verità se sono circondati da falsi. Che il diavolo è un uomo con un progetto diabolico, ma il male, quello vero, nasce dal collaborazionismo degli uomini, come oggi avete ampiamente dimostrato. Sapete qual è stata la mia vera colpa? Credere che la verità non si potesse nascondere, che dovesse venire a galla e che le menzogne non avessero vita lunga. Il punto è che ci credo ancora. Per quanto continuiate a insabbiarla, la verità è dietro l'angolo. E se ne infischia dei vostri giochetti, vuole uscire allo scoperto. Ve ne accorgerete tutti. Busserà alla vostra porta, come ha bussato alla mia. Mi impressiono. Quante stagioni ha fatto X-Files, compresa l'ultima? Lo sai, è una bella domanda alla quale non so rispondere. Anche perché il mio a un certo punto sì. La tua voce sta benissimo su sta colonna sonora. E poi tu non sei così ansioso. 10 stagioni, mi dice. 10 stagioni, ma il mio andò via prima. Ah, e sì. Poi ritornato in queste ultime sì, neanche spin-off. Una ripresa, sì, uno spin-off appunto. E, però appunto 10 stagioni in cui la settima, l'ottava, sono arrivato fino a quella, poi dopo il mio personaggio. Però tu hai continuato a seguirlo con Californication. Ha cercato di darsi una nuova virginità facendo lo scopatore maledetto. Sì, anche perché lui pare che anche nella vita non sia tanto da meno. Ah sì, quindi... hai capito. Tu Gianni che sei un bravo ragazzo. No, io proprio, guarda, appunto da questo punto di vista non gli sto dietro. Sei sposato? Sono sposato. Figli? Sono sposato, non ho figli però. Vabbè, vuol dire che esci la sera più tranquillamente e sei riuscito a uscire con tua moglie più spesso. Diciamo di che forse questa è una buona, è una, sì, buona alternativa. Sì, ci sono, ma... bene, non ci sono, cioè, va, esatto, bene uguale, insomma, non è nessun problema. Quanti anni è che tu bazzichi le sale, Gianni? Io ti ho trovato che già eri avanti. Dall'età di 17 anni. Per cui tu sei del 58. 58, 17 anni. Per cui sono 50, sì, 40 anni, 42 sì, anni. 42, buoni, sì. Chi ti ha inserito? Non sei figlio d'arte o figlio d'arte? Non sono figlio d'arte. E sono anche un autodidatta, che adesso sembrerebbe come hai fatto. Come te, per cui lo capisco, io lo capisco perfettamente. Vedi, c'è qualche eccezione che conferma la regola. Siamo figli d'altri e ci siamo riusciti in qualche modo. È successo che conoscevamo il padre di Francesco Brando, che avrai ospitato anche più volte, Marcello, esatto. E al quale per curiosità chiesi: ma queste voci che sento, la TV dei ragazzi, allora all'epoca c'era quella il pomeriggio, certo. Diceva, chi le fa? Come? Ma guarda, vengono qui, incidono, la famosa Persichetti, la sala della Rai all'epoca, dietro Via Teulada. Oddio, Persichetti è il nome che ho utilizzato io per vincere un provino di doppiaggio, perché Pino Insegno era un comico, per cui non mi davano Keanu Reeves. Allora ho fatto un provino come Mario Persichetti e ho vinto. Vedi. Poi ho detto che ero io, ma dopo Mario Persichetti, mi piaceva questo nome e cognome, sembra qualsiasi, no? Sì, è uno di quelli. E insomma, tu lì hai chiesto questa informazione. Mi fece una sorta di provino, lessi una cosa, non mi ricordo come, mi guardò e disse: guarda, sei totalmente negato. E io dissi: beh, grazie, arrivederci. Però, bello, però... pure devo dire che la tua sassa mi ha fatto la stessa cosa a me, Cioè, ho detto: tu non farai mai questo mestiere. Esatto, non fa per te. E io dissi: vabbè, me ne vado, però, poi c'è un però. Se proprio vuoi continuare, io ti do delle dritte per quanto riguarda la dizione, le lezioni, che ne so, la storia te le leggi al microfono e te le registri a casa con un gelosino piuttosto che con un altro. Il gelosino è un registratore, diciamo. Facciamo parte di un periodo analogico, per cui quando dici un gelosino sembra uno che non vuole che la moglie stia con te, ma invece è un registratore. Esatto. E siccome era un capoccione, ma proviamo. Quando tornai per la seconda volta mi disse: ma vedo che ci sono stati dei miglioramenti, vogliamo provare a cominciare a fare qualcosa, qualche brusio? Cioè, per me si apriva un mondo, certo, che era lontano anni luce, non stavo studiando, stavo ancora al liceo, figuriamoci. E di lì, passetto a passetto. Ti sei fatto il varco. È divertente, un saluto da Dino Capuano, che è un nostro fedelissimo ascoltatore, come ormai sono quasi 200.000 persone che ci seguono e ci vogliono bene. Ciao Pino, oggi da Peppa Pig a X-Files. Oddio. L'universo narrativo è davvero infinito. Sì. È vero che tu stai inondando le case con i figli, tu non sai che cosa significa averti per casa. Lo so, perché Peppa, i miei amici... Ma santa miseria, trovatemi un pezzo narrativo di Peppa Pig, perché tu stai a Peppa Pig come Ungaretti stava all'Odissea prima che cominciasse. Mamma mia, che paragone. Ma non è facile, è come Mario Gordova stava sui Teletubbies. I Teletubbies, cioè, anche lui ha avuto un trascorso, esatto, con i cartoni importanti. No, ma sono importanti perché sono educativi. Sentiamo un po', Gianni, se... mattino molto presto. Ecco. È prestissimo! Dinosauro! Questo dice solo dinosauro. Torna subito a letto! Ecco. A quanto pare qualcuno si è svegliato molto presto. Buon compleanno, Giorgio! Poi vabbè, tornerai strada facendo, sì, perché esatto, immagino che sia un impegno. È un tregunion per spiegare appunto ai bambini. Esatto, devi avere quella voce... falsamente piatta per cercare, sì, di per far capire, per far capire, perché c'è tutta è una bella giornata, essendo una bella giornata, bimbo mio, rimani a vedere il cartoncino. No, ma è bello, divertente. Poi ovviamente i nostri radioascoltatori sanno tutto, hanno ricordato dei momenti storici che qualcuno ha nascosto nei meandri del suo cervello e li hanno ritirati fuori. Però, vabbè, o ha tentato di nascondere. Esatto, vabbè, ma Peppa Pig comunque è un fatto. Cioè, no, non no, è una, come X-Files, è un fatto come IAR. Come IAR, quegli anni lì sono Quanti stati anni gli anni 90. Anche il dottor Green. Anche lì a 7 stagioni ho fatto, poi è continuato perché il mio ha avuto una morte atroce, naturalmente, perché ci voleva una morte di quelle tremende. No, fa male, non voglio. Che no. Cos'è? Dove ti fa male? Ah, dottore. A scuola stanno preparando uno spettacolo. Perché li facciano recitare con le spade di legno, non lo capisco. Hai un costume molto bello. Ti posso mettere qui? Sento tanto dolore. Lo so, farò pianissimo. L'ho vista, è sotto l'unghia. Ma da me non si lascia toccare. Posso dare un'occhiata? Io non voglio l'iniezione. No, no, no, niente iniezione. Parola d'onore. Facciamo un gioco. Tu chiudi gli occhi, ok? Ok. E qui è l'ultima paziente, questa, poi te ne sei andato. No, non l'ultima, però ricordo questo pezzo qua, perché naturalmente quando si ha a che fare con i bambini c'era il momento delle lacrime e serviva anche... Il bello di IAR era che si passava dalla tragedia alla comicità più spinta certe certo, volte nell'arco di un secondo. Successo. Sì, oltretutto il modo di girare quella serie che era altamente non televisivo ma cinematografico. Per la prima volta, ti ricordi, Pino, abbiamo la rotazione, siamo pure in quel periodo, ti ricordi i piani sequenza? Certo, assolutamente un sì. Un minuto e mezzo di piano sequenza che noi guardavamo lo schermo e dicevamo, ma come fanno questi? E non è un caso che gli attori che hanno fatto IAR sono diventati attori di cinema. Adesso è il contrario, attori di cinema che si prestano alla fiction. Beh, perché si guadagna così. Sì, ma sono cambiati i tempi anche dal punto di vista economico. Certo. Ora il mercato americano ha due grandi fasce, la fascia bassa, diciamo, e la fascia altissima. La fascia media l'hanno rubata letteralmente le televisioni. Certo. La televisione cosa fa adesso? Quei budget dai 30-40 milioni, anzi 20, agli 80, e fa delle cose straordinarie con le ultime serie. Esatto, comunque, o Narcos o che altro. Sì, infatti loro fanno volentieri questo perché è diventato un prodotto di qualità. Assolutamente. Di qualità e soprattutto venduto in tutto il mondo e la possibilità economica, perché poi l'attore americano lo vende in tutto il mondo. Esatto. Anche, devo dire, i nostri prodotti italiani sono un po' troppo da fuorilegge, perché noi abbiamo esportato Romanzo Criminale e lì ce n'abbiamo un protagonista che è Mauro Meconi, e abbiamo esportato Gomorra e abbiamo esportato Suburra. Non c'è niente che racconti l'Italia in maniera diamogli tempo. Sì, io vedo dei grandissimi prodotti che veramente è un prodromo. Sollima è meraviglioso e credo che Mauro Meconi può annuire dall'altra parte, che è un grandissimo, sì, veramente, cioè visionario. Uno che ha sdirazzato dal papà, dal Sollima papà, che era un po' più tranquillo, e lui invece ha raccontato e sta in America e racconterà delle cose. Speriamo che abbia la grande ammirazione. Ammirazione. Bravo davvero. Hai fatto pure nei Simpson David Duchovny? Sì, mi ha chiamato. Farò un po' sentire, un che più o meno sarà più a cartone animato. Ne ho abbastanza, Mulder, andiamo via. Sì, Mulder. D'accordo. Ma da qualche parte là fuori qualcosa ci sta osservando. Ci sono forze aliene che agiscono in modo a noi impercepibile. Siamo soli in questo universo? Impossibile. Quando ci si rende conto delle meraviglie che ci circondano. Preti voodoo di Haiti, numerologi tibetani dei Monti Appalachiani, e che dire dei misteri occulti del programma Misteri Occulti. La verità è là fuori. Molto divertente. È un gioco ironico su questo. Molto, molto divertente. Senti, Blu Notte, eri il narratore anche lì. Blu Notte, oddio, mi cogli impreparato, che cos'era? Bene, come qui io guarda, c'ho gli autori forti. Guarda, dimmi tutto, perché io. Allora, prima di passare alla tua carriera di doppiatore e di direttore di doppiaggio, ricorderai ai nostri radioascoltatori che negli anni 90 sei stato un annunciatore Rai. Come no? Io uno di ho affiancato. Uno di maggior successo era Blu Notte, tu eri il narratore. Esatto, sì, è vero, ma. Perché il discorso è che tra l'88 e il 98, dopo aver vinto l'ultima selezione che la Rai fece da annunciatori, c'erano le selezioni, era un concorso nazionale, certo, qualcosa che poi naturalmente è scomparso. Quando prendevano gente vera, preparata, eccetera. Noi facemmo 6 mesi di corso bello intensivo, dove ci insegnarono di tutto, da stare in diretta e ascoltando l'ugro finnico che va in onda con una musica che tu non comprendi, magari dodecafonica, eccetera, quindi t'attacchi nel frattempo nel tentativo di capire quando comincerà quella caspita di musica, sì. E fino a, appunto, a tutta la classica, la sinfonica operistica la sera su Radio 3, per 10 anni ci sono stato. Infatti tornare in radio mi dà una certa emozione. Perché per la radio è la casa della voce. Esatto, è qualcosa che c'ho dentro e mi dispiace da troppi anni non faccio. Mi piacerebbe riprovare a mandare in onda e rifare gli sceneggiati, i radiodrammi con i colleghi. E il problema è che c'è poco tempo, pochi soldi, pochi soldi. Anche perché il radiodramma va scritto, va sceneggiato, va provato. Ci sono stati dei tentativi anche belli, che ha fatto anche Jack Folla, per esempio. Sì, con Jack Folla, con Roberto Pedicini. E Diego Cuccia come regista e autore. Sì, ma poi si perdono, perché lo stesso Luca Ward ha fatto una cosa molto carina, però hanno chiuso tutte le cose col parlato, con la voce. Adesso musica. Ho un grande dispiacere rispetto a questo. Sì, però forse sono io che sono fuori dal mondo, non lo so, Pino, ma forse pure io allora. Ma infatti io ho trovato parcheggio bellissimo in questa radio, Radio 24, che ha dato la possibilità. Era una trasmissione che faceva gola a molti, che piaceva a molti, anche ai colleghi molto carini di radio molto importanti, soltanto che giustamente dicevano: Pino, qui dopo due minuti tocca andare in pubblicità, bisogna mandare un pezzo. Ed è un peccato non riuscire a navigare attraverso questo mondo che tu vuoi raccontare. E devo dire che Radio 24 invece è riuscita a farcelo raccontare in pieno. E infatti sono tre stagioni che navighiamo alla grande, perché poi questa trasmissione significa sia attori, doppiatori, cantanti, testimonianze che riguardano la voce, ma tutorial sulla voce, sul canto, sull'educazione, pillole di salute vocali come quelle che farà anche oggi Franco Fussi, e sono già 7 puntate. Se voi le registrate, anche noi ci fanno solo che bene, capito? Per cui c'è tante cose, tantissime cose, public speaking, c'è proprio un corso di formazione anche interno. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questi due blocchi, e poi rimani ancora un altro blocco con noi. Un altro blocco, ma quanto volete? Anche perché dopo ci saranno i ragazzi che si alterneranno a questi microfoni, non decideremo noi il loro destino, ma possiamo dargli piccoli consigli, va bene? Allora, eccoci qua, mancano 7 secondi alla fine del blocco. Io sto vedendo l'orologio davanti a me, del primo blocco, sì, sono due, perché prima era diviso in due, erano 15 minuti, eccetera. Adesso, ok, vedi, mi avete fatto sforare i 3 secondi. A tra poco, signori miei, Voice Anatomy, Radio 24. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy. Eccoci qua, stiamo un attimo in movimento perché sono già entrati i primi due ragazzi di oggi. Sono 7, vero Mauro? 7. Puoi parlare più forte. Ah, vabbè, no, c'è Gianni, rimani, c'è Gianni. È qui e già con lui possiamo cominciare ad ascoltare. Poi faremo raccontare una cosa carina al dottor Bersanetti, perché ci piaceva parlare un po' degli alieni, e con la sua voce poteva diventare una cosa molto carina. Ho lasciato Mauro gli occhiali di là, non vedo più neanche il microfono. Allora, presentiamoli, oggi sono 6 ragazzi, anzi... No, ti devo interrompere, sì. Perché non hai dimenticato gli occhiali. Ce l'ho in testa? Ce l'hai in testa. Ok, va tutto bene. Non è bello quello che hai detto, muoviti pure sotto voce. No. Invece tu ti dovevo sputare. Sì, no, ma siamo sdoganati da Cruciani qui, tranquillo. Ah, ok, perfetto. Allora, tu invece sei più grande. Sì. Del solito tran tran. Quanti anni hai? 47. Va bene, sei un bambino. Di dove sei e come ti chiami? Forlì, mi chiamo Gian Piero Bartolini. Tu fai ovviamente l'attore, immagino. Faccio l'attore di teatro. L'attore vero. Quello di teatro. Tu teatro, hai cominciato subito con radio, televisione, no. Ho fatto anche un po' di teatro, tra parentesi con Fabrizio Temperini, abbiamo fatto un Anfitrione di Molière con la regia di Riccardo Cavallo, un amico nostro, Riccardo, bravissimo. E come no, per cui teatro, la base è quella, il teatro, non ce n'è per nessuno. Poi ci sono tante declinazioni come quella del doppiaggio, che è una cosa un po' più complessa, perché non solo è grande tecnica, ma devi andare a tempo con qualcuno che non sei tu. In questo caso, ecco di qui. Cosa mi hai portato, carissimo? Allora, ho portato il finale di American Beauty. Ah, ok. Speriamo che Pedicini non si nascolta, se no decide di intervenire. Ma comunque lo faccio differente da lui. Bravo. Ma sicuramente meglio. Tanto non ti preoccupare, ce li dico io. Non c'è problema, è un gioco, ovviamente. Vuoi la musica? Hai chiesto? No, nessuna musica. Non la vuoi il pezzo di Thomas Newman? O se no volete mettere qualcosa voi? No, lì è... Ci abbiamo Thomas Newman, ce l'abbiamo. Hai visto? Hai dato dei soldi a Nancy? No, lo fa gratuitamente, lo vedi? E allora, ripresentati, nome, cognome e quello che porti. Gian Piero Bartolini, finale del monologo di American Beauty di Kevin Spacey. Ho sempre saputo che ti passa davanti agli occhi tutta la vita nell'istante prima di morire. Prima di tutto quell'istante non è affatto un istante. Si allunga per sempre, come un oceano di tempo. Per me fu lo starmene sdraiato al campeggio di Boy Scout a guardare le stelle cadenti, le foglie gialle degli aceri che fiancheggiavano la nostra strada, le mani di mia nonna e come la sua pelle sembrava di carta. E la prima volta che da mio cugino Tony vidi la sua nuovissima Firebird e Jane e Caroline. Potrei essere piuttosto incazzato per quello che mi è successo, ma è difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. A volte è come se la vedessi tutta insieme ed è troppa. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E poi mi ricordo di rilassarmi e smetto di cercare di tenermela stretta. E dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida, piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando. Ne sono sicuro. Ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete. Ok, ok. Attento a sta voce ogni tanto. Cioè, tu la perdi un po'? No, siccome sgrani tantissimo, che è una voce particolare per il doppiaggio con un microfono davanti, può andare bene, non c'ho pure in teatro, quando spingi tanto ti spacchi la gola. No. Ma spingi no. Bene, l'appoggi sì, bene, sì. No, è particolare sicuramente, hai dato i tuoi tempi. Sì, l'hai sì, resa sì. Meno cinematografica, sì. Se no più verso la teatralizzazione della cosa, però la voce è interessante. No, tanto non decidiamo noi. No. Non deciderà il gruppo della Warner con l'idea in mezzo, però insomma, interessante, che dici Giannino? Assolutamente, poi devo dire non è una cosa facile, è un mondo che ormai si sta chiudendo perché non ci vanno a entrare manco a noi nelle sale, cioè se non hai il binge, sì, perché Netflix, Amazon, HBO eccetera non permettono alle persone di vedere in anticipo i filmati perché rischi di spoilerare la cosa eccetera eccetera. È la grande differenza che c'è rispetto a quando eravamo giovani. Sì, prima diceva posso entrare, posso assistere, sto buono buono, è la discrezione del direttore e del doppiatore o la doppiatrice che era in sala. Io sono esibizionista, per cui mi piace che ci siano tutti sempre. E poi c'è un'altra grande differenza, sono le colonne separate. Sì, esatto. Una volta stando insieme al leggio c'era una sorta di competizione che ti consentiva di migliorare e se avevi la stoffa... E imparare mentre stavi lì a lavorare. Adesso comunque è tutto separato. Sì, almeno i protagonisti sono tutti separati. Quasi separati. Quasi più difficile così. Sì, no, perché doppia non è tanto quello, è che manca quella collaborazione interna, quel gioco, quella goliardia che può succedere. Quando abbiamo fatto il Signore degli Anelli eravamo io e i miei compagni dell'anello, cioè per cui era divertente stare lì come Fabrizio Manfredi con tutti quanti, che lui faceva Legolas, però quando smetteva di fare Legolas lo faceva sono Legolas, sei un orco, attento, perché è bionda Legolas con orecchie a punta, insomma giocavamo, ci gioca ed è il modo migliore poi per affrontare 9 ore al buio dentro una sala. E invece quest'altro giovine signore altissimo, con una voce anche importante, ho sentito prima. Ma più o meno, dai. Senti già, quanti anni hai? Sei giovane poi? 24. 24. E tu di dove sei? Come ti chiami? Io scusami. Mi chiamo Francesco Saverio De Angelis, vengo da... Hai già tre nomi. Già un nome molto nobile, no? Beh, De Angelis è poi nel doppiaggio, tanto di cappello, sì. E vengo da Fabbrica di Roma, in provincia di Viterbo, e... Sono uno studente, studio biologia cellulare e molecolare e... Sei venuto qui a studiare noi, hanno parlato di me che posso essere un ottimo elemento per la tua tesi oppure perché ti piace questo mestiere? Beh, questo mestiere mi piace da quando da piccolo conobbi Pandolfi e che il grande Elio. Mi recitò davanti una parte della Bella e la Bestia quando ero piccolo ovviamente per la Disney. Certo. No, e quindi... Da allora ho sempre avuto questa passione. Perché non hai fatto l'attore, scusa, invece fai il biologo, con tutto rispetto per una professione meravigliosa? Perché ho sempre trovato qualche problema che mi ha impedito di provare il teatro, provare solo di recente. Trovare il teatro. Viterbo poi c'è l'Unione, cose che apre, chiude, non si capisce più niente. Tra l'altro, sì. Lo so. E allora, però, lo ami così tanto che insomma, sì, sentirà, anche se sarai solo fra virgolette il biologo, ma un biologo che sa recitare è sicuramente il migliore. Un avvocato che sa suonare un pianoforte è un avvocato migliore, insomma. Tutto questo addolcisce la vita. Cosa hai portato? Ho portato un pezzo della Dura Verità, un film con Gerard Butler, che in questo film è doppiato da De Ambrosis. E parla di questo, di questa donna in carriera che si innamora del tipico uomo gretto e fine, ma alla fine e scoprono entrambi l'amore. Ma in questo pezzo, quel che ho portato io, lui rivela tutta la sua mascolinità, tutto il suo maschilismo, disprezzo per le donne, il suo macismo. E questo qui mi sembra il periodo giusto, questo di Weinstein, sì, in questo monologo. Esattamente. Vuoi musica, vuoi niente? No. A cappella, come si dice. Esatto. E allora ripresenta di nome e cognome il titolo del pezzo. Francesco Saverio De Angelis, La dura verità. Bentornati alla dura verità. Stasera parleremo di ciò che cercano veramente sia gli uomini che le donne in una relazione. Ho letto libri sull'argomento. Donne intelligenti, scelte stupide. O donne che amano uomini che le odiano. E donne che amano uomini che amano donne che amano uomini che non le amano. Ma che... Ascoltate, signore, ve lo dirò una volta sola. È facile, sono soltanto tre parole. Gli uomini sono semplici. Noi non possiamo essere addestrati. Tutti questi uomini che vengono da Venere, ma che stronzata. Se volete restare delle zitelle, per carità, continuate pure con quegli stupidi libri. Ma se cercate una relazione, il metodo è questo. E si chiama cosce, chiappe, sode. Perché alla fine della storia, quello che conta è solo il look. Bene, ti sei fatto una pubblicità meravigliosa come, sì, uomo. Di esattamente che ti stacchi completamente dalle parole di questo monologo. Mi stacco e tra l'altro aggiungo che questo monologo l'ha scelto per me una donna, quindi sono innocente. Una fetish vera. Esatto. Ti dovrebbe far pensare, è la tua dolce metà che l'ha scelto? No. Dillo chiaramente. No, un'amica. Un'amica della tua dolce metà? No. La tua dolce metà sa che esiste questa amica fetish? Va bene, sì, non voglio andare non, oltre. Non indaghiamo troppo. Non so se lo prenderanno mai per questa cosa. Sicuramente è finita la sua storia d'amore. Quello è sicuro. C'è più possibilità da quest'altra parte. È finita. E allora rimanete qui ancora con noi, perché adesso voglio far leggere questo signor dilettante che sta al mio fianco, che si chiama Gianni Bersanetti. Oddio, che hai preparato vino? Ma guarda, Mauro ha preparato le caldarroste e come prepararle. Beh, ma che non voglio... è male come idea. Sì, però no, io mi piace. Visto che è quasi Halloween, c'è come creare un costume da alieno, visto il tuo trascorso con X-Files e certo, tutto ciò che è metafisico, eccetera. Possiamo, sì, loro stanno cambiandosi, ma potevano anche rimanere, Mauro. Ah, bisogna dire, ringraziamo anche per Mamma Nera il successo che ci sta decretando, che ti sta decretando il web, perché è un'idea piccola ma sponsorizzata, ma molto molto carina. Mamma Nera, siamo alla quinta puntata e stiamo intorno alle 700.000 visualizzazioni. Accidenti. Per cui non è niente male. Va sul sito ovviamente di Voice Anatomy, lo frequentate tanto e poi non mettete mi piace. Allora, o non vi piace o bypassate questo elemento. Invece è fondamentale che ci aiutiate anche in questo, visto che siete tantissimi davvero, ma decine di migliaia. E vi ricordo i numeri di telefono, ce l'avete comunque, 349-238-6666 per gli sms e 800-2400-24 se volete partecipare in voce, ma voi vi vergognate, qualcuno ogni tanto chiama, ma sono sempre in punta di piedi i nostri radioascoltatori, però molto ma molto attenti. Allora, tieni carissimo, te lo sto dando ovviamente come succede nel nostro ambiente, all'improvviso, non sapeva neanche, non lo so, te lo devi inventare. Come creare un costume da alieno. Senti di Mulder però, questa va in onda anche fisicamente sul nostro sito. Proviamo, ma sarà complicato non vederlo in faccia mentre... Ma sei un attore, ma che te frega a te? Lo so, ma io sono un archeologo prestato al... La verità è là fuori, Bersanetti, vai. La prima cosa che dovrai fare è quella di procurarti un pullover della taglia di tuo figlio e una calzamaglia verdi. Dopo aver fatto questo, non ti resta che creare un viso da alieno. Per far questo, dovrai ritagliare il cartoncino verde in modo da ottenere una grande testa da alieno. Successivamente dovrai fare due buchi per gli occhi in modo simmetrico. In questo punto dovrai ritagliare anche due grandi occhi nel foglio di alluminio. Per quanto riguarda il resto del corpo, dovrai semplicemente procurarti una calzamaglia verde e un pullover di una tonalità simile. L'effetto finale sarà molto simpatico. Come vedi, realizzare questo simpatico costume è un lavoro piuttosto semplice, direbbe il narratore di Peppa Pig. che potrei fare anche insieme a tuo figlio, passando così un momento felice insieme che ricorderete negli anni. Come si passa dagli alieni? Ma questo è un esercizio di stile bellissimo. Bello, grazie. Anche questo è fondamentale, la grossa dose di autoironia. Tu sei di Roma, sì, sei nato sì, a Roma. Però le ascendenze sono un po' viterbesi e un po' ferraresi. C'ho sangue etrusco nelle vene. È vero, Ferrara e Viterbo, assolutamente sì. Io faccio casa Tarquinia da tanti anni, che è proprio esatto. Una ecco zona... perché dicevo un doppiatore prestato, cioè un archeologo. Perché archeologia all'università. Ah, l'hai fatto? Sei un laureato. Prima Tombarolo, no, quasi, mi mancano 4 esami. E che fai? Prima Tombarolo. E per questo mestiere mi ha portato via un sacco di tempo. E riprendiamoli, 4 esami, non ti servono a niente. Non mi servirebbero a niente. Però, dottor Bersanetti. Però mi piacerebbe, sì. Un po' mi è rimasto un po' di... Valgono ancora, potresti recuperare. Ma lo sai, ho perso, non ho più idea. Come direbbe Cruciani, sti cazzi, non fa niente, dai, fa niente. Fa niente, amico mio. Voi siete già preparati, ma non c'è il tempo. Lo facciamo nell'altro blocco, insomma, perché altrimenti tu rimani ancora un io po'. Io voglio rimanere, se non mi cacciate. No, chi ti caccia? Assolutamente no. Io faccio venire anche l'ospite seguente, che è già arrivato, che è Sebastiano Somma. Per cui durante la pubblicità lo inviterei all'interno dello studio, lo metterei vicino a Gianni e così cominciamo a parlare anche con Sebastiano Somma. Amico anche lui da tempo immemore ed è attore anche lui da tempo immemore, attenzione. Siamo meno giovani di questi ragazzi, Gianni mio. Arrivano tanti bei messaggi, anche Totò fu presente al suo funerale nel film decidendo di andarci da solo a piedi. Vuoi andare anche te con la cuffia e il rosario? Non è male, io prima ho detto questa provocazione di voler essere presente al funerale, almeno te lo godi, nel senso vedi piangere i tuoi amici o chi ti ama veramente, diventa una sorta di festa un po' egocentrica. Ma il tuo super ospite è un cospirazionista o un cicappino? Cioè? Cicappino? No, sono più cicappino. Sei assolutamente più cicappino? Sì, assolutamente. Spiegami però, perché chiedo scusa. Il cicap è l'istituto in qualche modo che si occupa di verificare se esiste veramente il paranormale attraverso degli esperimenti. C'è anche, adesso non mi ricordo l'americano come si chiama, che ha istituito il CICAP mondiale, e una volta stabilito che qualcuno può avere delle doti paranormali si mette anche alla prova. Certo, sì, si dà la patente. C'è un milione di euro, di dollari in palio se uno riesce a far sparire quel microfono piuttosto che levitare per aria. Qualcuno pagherebbe un milione per farmi sparire, visto che dice che non faccio parlare gli ospiti. Va bene, allora. E io perché è il contrario di quello che accade in X-Files, mentre Claudia crede molto a queste cose, Claudia tu Catani. No. Io assolutamente no. È stata domenica scorsa. Ecco, infatti, no, la a tra poco, voi sanatomi, grazie. Sanatomi. Bentornati signori miei, come vi dicevo stiamo continuando con i nostri ospiti, i nostri perché ci ha raggiunto anche il bel Sebastiano Somma. Buon pomeriggio, ciao Pino. Oh, finalmente una figura, è più bello di noi Bersanetti. No, al tuo livello non ci si arriva. È vero, no, certo, questo è chiaro, però tutto quello che, quello che si avvicina di più al mio corpo, insomma. Sì, al tuo corpo. Alla mia estetica. Fammi allontanare. E abbiamo anche ancora questi due bei ragazzi che tenteranno con questo contest di aggiudicarsi la finale, perché stiamo per arrivare alla fine dei conti e sceglieremo una ventina di voi, di quelli che si sono alternati a questi microfoni, e 10 parteciperanno a questa finale, spettacolarizzandola anche un po', anche se non è un talent, ma un contest, e la Warner darà questa possibilità poi di cimentarvi con un film, con una magari a parte non gigantesca, perché non avete l'esperienza necessaria. Allora, amico mio, come ti chiami? Daniele. Quanti anni hai? Ho 22 anni. 22 anni. Da dove vieni, Daniele? Vengo dalla Calabria, da Vibo Valentia. Conosco perfettamente. Mi sei fermata la macchina 2 volte all'altezza di Vibo Valentia. Non che porti male, ma poi io penso papà è reggino, per cui conosco bene quella zona. Allora, cosa hai portato? Ho portato il monologo finale di K-Pax. Ok, anche questo Kevin Spacey. Film, ecco, è proprio fantascienza, perché lui è un alieno... Stiamo aggiustando qui le cuffie nel frattempo, funziona, Mauro Megoni anche, niente, non funziona. Va bene, nel frattempo io tenterei, più che aggiustare in diretta la cuffia, tenterei di ascoltare anche questo ragazzo. E ok, l'ambulanza che sentite, attenzione al telefono Sebastiano, perché so che devi leggere ma interviene all'interno, ok, non c'è niente. Va bene, allora ti ripresenti, nome e cognome e il titolo del brano. Daniele Manno, Kipax. Voglio dirti una cosa, Mark. Una cosa che ancora non sai. Noi kipaxiani abbiamo vissuto abbastanza ad averlo già scoperto. L'universo si espanderà. Poi tornerà a collassare su se stesso e poi si espanderà di nuovo, ripetendo questo processo all'infinito. Ciò che non sai è che quando l'universo si espanderà di nuovo, tutto quanto sarà come adesso. Qualunque errore commetterai in questa vita, lo ripeterai nel tuo prossimo passaggio. Ogni errore che commetterai sopravviverà ancora e ancora, per sempre. Quindi il consiglio che ti do è di fare le scelte giuste questa volta. Perché questa volta è tutto ciò che hai. Ok. Sei un po' acerbino, un po'. È un po' letta ancora. Però tu stai studiando per poter fare questo mestiere? No, va bene l'addizione, eccetera. Poi sei giovane, per cui ci sta. Ci può stare. Tranquillo, non è un giudizio negativo, non vuole essere. Grazie. Non sto sul tavolo a mettere le X come X Factor, eccetera. Qui siamo. E intanto un altro tecnico del suono si alterna. Anzi, funzionano adesso le cuffie? Sentiamo un po', Sebastiano, senti tutto? Ma è fantastico. Fantastico. È tornato con noi anche Sebastiano. Fantastico. Però bene, dai. Grazie. E tu, amico mio, cosa? Ciao, ecco. Io sono Francesco Maggioni, vengo da Milano, ho 23 anni. E faccio il cabarettista, però la mia passione per il doppiaggio nasce per la recitazione. In generale, però il doppiaggio, visto che sei anche un cabarettista, di che c'hai qualche monologhetto, qualcosa al volo di 30 secondi ma scritto da te? Sì, scrivo tutto che, io. Avevo... Che posso rubare? Cioè, ovviamente. Certo. L'ultimo monologo che ho scritto era dedicato per l'appunto al doppiaggio, ma sono un po' appunto battute dedicate a quel mondo lì. Cioè, ad esempio inizio dicendo che la mia passione per il doppiaggio nasce come fonte di ribellione nei confronti dei miei genitori, perché fin da quando ero piccolo loro mi dicevano di non parlare sopra le persone. Questo è molto Monty Python, è delicatissimo, sì. Interessante è come cosa. È praticamente tutto così sostanzialmente, fino a che appunto non racconto di alcune piccole esperienze, perché assisto ai turni a Milano e cose così. Così che sei un ragazzo che c'ha l'occhio della tigre, come dice Rocky Balboa. Sì, frequento il laboratorio artistico dello Zelig. Un'altra bella cucina di grandi artisti. Sì, decisamente. Ma studi anche università, cose, eccetera? No, bravo. Nel senso, non vorrei essere istigare la gente a non fare l'università. Nel senso che è un mestiere al quale ti ci devi dedicare anima e corpo, no? Gli studi assolutamente sì, però se ti metti a fare l'università, ingegneria aerospaziale e l'attore, non credo che possano, come lui il biologo, io glielo auguro di farcela, ma poi devi decidere dove andare. Ma penso che lui abbia fatto già la sua scelta. Lo vedi già. Fin da quando ero piccolo. E questo è bellissimo. Allora, vedi, c'ho pure un orecchio scoperto e l'altro coperto come i doppiatori. Sì, no, perché in realtà mi dà fastidio sentire la mia voce in cuffia. Sono un po'. Beh, parti bene però per fare questo mestiere, ti dà fastidio. No, è che non sono abituato. Va bene, dai. Allora, a parte che il doppiaggio non senti la tua voce in cuffia, ma senti la voce dell'altro, no? Per cui. Questo si fa per compiacersi in radio, senti la tua voce. Okay. Che cosa hai portato? Ho portato l'introduzione di Io e Danny di Woody Allen. Quella, niente proprio di meno che, perché c'è subito il paragone lì, capito? Uno deve sempre stare attento. Forse sì, effettivamente magari, però mi piaceva, mi diverte, quindi... Lo fai alla Lionello Allen, che poi è la stessa cosa, perché Oreste era proprio l'anima di Woody Allen, in quel tartaglio forse... allungato. Quello... Non proprio ovviamente così, però appunto mettiamo una musichetta allegra, ce l'abbiamo Nancy, non lo sa, giustamente è venuta oggi, ho 2000 file, poverella. Va bene, facciamola a cappella, se no vai. Allora ripresentati, nome e cognome, il monologo. Francesco Maggioni, Io e Danny. C'è una vecchia storiella, due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena, e l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo la vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente e penso di attraversare una crisi. Io non mi preoccupa invecchiare, non sono di quei tipi. Lo so, quassù mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ok, dizione rapidissima, come quella di Chevalier. Hai sentito quanti fiati in continuazione, non aveva proprio tempo per entrare. Bravo. No, ma no. Molto rapido, la dizione è perfetta, rapidissima, può pure prendere con un po' più di tranquillità, però c'è il Budiale che è un nevrotico, per cui... No, ma va bene, c'hai 23 anni, santo Dio, io non leggevo neanche a 23 anni, però per dire papà a 24, per cui no. Bene, dai, bocca al lupo anche a voi due. Adesso rimanete, tanto c'è ancora un minuto prima di andare in pubblicità e poi saluteremo Gianni Persanetti. Io aprirò una parentesi importante con Sebastiano Somma e dopo mi leggi anche tu. No, ma questa è proprio rivolta a loro, eh? Cioè, ai ragazzi? Se vuoi te la sparo subito. Quanto dura? 40 secondi. Allora sì, buona musica. L'ha scritta Paolo, no, ha scritto Pasolini. Ascoltate, un po' anche in quelli che stanno fuori adesso. Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta, alla sua gestione, all'umanità che ne scaturisce, a costruire un'identità capace di avvertire una comunanza di destino dove si può fallire e ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati, a non divenire uno sgominatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo in questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, e tutti i nevrotici del successo, dell'apparire, del diventare. A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde. È un esercizio che mi riesce bene e mi riconcilia con il mio sacro poco. Ma che bella! Bellissima, come si intitola? Certo, c'è gente che ascolta, come senti Rino Gaetano, dici, ma quando l'ha cantata Antreg? 30 anni fa, eppure sembra fatta ieri. E questa è proprio di questa oggi. Sembra che lui abbia visto la televisione di oggi, le scorciatoie di oggi e l'abbia raccontata per dare forza ai giovani. Assolutamente. In bocca al lupo, ragazzi. Pierpaolo Pasolini, la voce era quella di Sebastiano Somma. A tra poco, Radio 24. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finfarlo, magari con un'assenza di rodo dentro la gratella. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Non sei convinto? Eh no, è che due spaghi. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori miei. Voice Anatomy, sono le 15 in punto e una manciata di secondi. Alla mia destra si è spostato sulla fascia destra Gianni Persanetti, rimasta alla mia sinistra. Normalmente lui è un centrocampista d'eccezione. D'eccezione. No, sempre stato bravo con l'altra maglietta, ma ha sempre stato in campo. Perché noi ci conosciamo dai tempi della nazionale calciatori. Più che come colleghi, siamo stati co-calciatori. E poi siamo diventati amici. Grande fascia tu, no? Sì, una volta grande sì. Grande fascia. Ma addominale, la fascia quella. Addominale che ha perso anche quella. Ho perso quella sul campo verde, ho perso pure quella addominale, Sebastiano. Però grandi partite al derby del cuore. Lo stadio olimpico, grandi partite. Bella anche più grandi atmosfere. Sì. E infatti sabato credo che avete. C'è stata già ieri la partita. Ieri. Non sono potuto venire perché a parte non posso giocare, ma sarei stato volentieri presente perché avevo due spettacoli. C'è stata una festa meravigliosa a Trevi con il nostro amico Ray Lovelock. Siamo stati assieme a lui. Abbiamo festeggiato, abbiamo raccolto dei fondi per una scuola di Trevi, un istituto comprensivo, quindi è stata una bellissima giornata di festa assieme a tanti con grande nostri Minetto, colleghi. Minetto Tavoli, Minetto... capofila da sempre, che la fondò lui con Pasolini, poi bravo, fatalità tu hai letto prima Pasolini. C'era Ninetto ovviamente, grande amico di Ray Lovelock, c'era Zingaretti, De Carlo, insomma tanta gente, ma è stata una giornata meravigliosa, meravigliosa. Hai segnato insomma? Allora ho fatto fare 3 gol su assist e mi sono mangiato un rigore perché Borghetti me l'ha parato. Borghetti Giorgio era forte. Sì. Giorgio è fortissimo. Vorrà dire che per Borghetti il doppiaggio finisce qui. Non lo chiamiamo perché ha parato rigore. Ha parato rigore. No, sì. Sebastiano, sei mangiato a sto punto. Allora, rigore. Guarda, lui non lo sa, non glielo ho detto ieri, ma io ho un flash di circa 20 anni fa di un rigore che ho buttato fuori e Borghetti era in porta. No, ieri, quando ho alzato la testa e mi sono guardato Borghetti, ho detto lo sbaglio. Lo vedi? E così è stato. Questo mi fa capire una cosa nella vita. Baricco nel cronaca di Gran grande show che racconta di un errore che si perpetua a vita. Una volta che l'hai fatto te lo porti dietro, non c'è niente da fare. Ti auguro di non farlo in certi momenti importanti dopo mezzanotte. Ah, beh, ci sta pure quello. No, ma come? Sebastiano, l'ho perso di vista, un uomo piacevole, piacente. Chi non ha mai patito per una volta? Ma insomma, tutto gli si può dire a Sebastiano. Ma che vuol dire? Oh, ma che vuol dire? Beh, no, tu essere al cuore non si comanda. No, al cuore tu sei riuscito a fare un percorso bellissimo nella tua carriera, Sebastiano. Grazie. Perché l'hai percorso in tutto e per tutto, l'hai declinato dappertutto, ma non cercando la strada giusta, è arricchito cercando la tua strada, cercando la strada, ma le tue strade le hai percorse tutte, portandole con grande successo fino alla fine, perché tu hai cominciato da subito, ragazzino piccolo. Tu eri già un mito quando io cominciavo, ma no, abbiamo quasi la stessa età, mi sembra, però tu insomma hai fatto un percorso di tanta roba, Pino, te l'ho sempre riconosciuto. Sì, insomma, assolutamente, vabbè, comunque, ma sei tu l'ospite, vissuto, sei straordinario. Vabbè, sei... ma tu non vieni mai intervistato? Possiamo fare una cosa al contrario? Sei bravo a farlo. Se vuoi leggo qualcosa della tua vita, mi metti una musica di sottofondo piacevole. Con la voce di Pino Insegno. Dai. C'è Nancy? L'hai trovata? È giustamente Nancy che io abbraccio e ringrazio. Sebastiano Somma nasce a Castellammare di Stabia il 21 luglio 1960. È un attore italiano. A 22 anni si trasferisce a Roma, dove prende parte a diversi corsi di recitazione e dizione. I suoi primi lavori, pensate, sono nella filodrammatica napoletana con opere di Scarpetta e Edoardo, recitata insieme ad Aldo Giuffré prima e Rosalia Maggio poi nelle Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Al cinema ti sei affacciato con opere leggere all'inizio. Molto. Il tuo primo film è stato Uno jeans e una maglietta. Fantastico. Beh, Mariano Laurenti, uno dei registi. D'Angelo. Film che ha incassato l'ira di Dio. Sì, ancora oggi lo propongo. Esatto, cui fanno seguito molti altri film negli anni successivi. Il suo primo ruolo televisivo è uno sceneggiato di Silverio Blasi, Il Boss, nel quale interviene di un killer assoldato alla mafia. A metà anni 90 lavora anche come inviato pubblicitario nella trasmissione di Rai 1. Caramba, che sorpresa! Yes. Questo racconta veramente di tutto. Sì. La svolta professionale, però, caro Sebastiano Somma, avviene qualche anno dopo con una serie televisiva di grande successo, Sospetti di del Luigi grande Perelli. Luigi Perelli, regista della mafia. Della Mapiovra. Sì, la Piovra gli ha parlato di mafia, tanta roba. Sì. Di cui è protagonista per 3 edizioni, per la regia del caro amico Fabrizio Costa, che interpreta 2 fiction importanti, Senza confini e Madre Teresa. Ovviamente Sebastiano non era Madre Teresa. Ero Palatucci in Senza confini, però che comunque è stato un grande eroe nel periodo del dopoguerra, insomma nel periodo degli anni delle leggi razziali. Insomma. E poi a proposito delle nostre fiction che durano una vita, Sebastiano per 5 stagioni è stato un caso di coscienza. È stato un caso di coscienza. È un avvocato, magistrato in Sospetti, avvocato in Un caso di coscienza. Esatto. E La bambina dalle mani sporche del bravissimo Martinelli. Ritrovi il teatro, prima diretto da Giorgio Albertazzi in Sunshine, insomma, poi rendi omaggio ad Edoardo De Filippo in una commedia interpretata a fianco di Tosca d'Aquino, Io Edoardo, diretto da Bruno Colella. Per 4 anni porti in scena 2 lavori di Leonardo Sciascia, che ho visto, Il giorno della civetta e A ciascuno il suo. Vieni anche diretto a Gigi Proietti in Remember Me, dove metti in luce il tuo lato comico brillante, che è un'altra sfaccettatura. Segue un'altra commedia, Incubi d'amore, diretta da Augusto Fornari, e al cinema torni con un film di Antonio Baiocco nel 2010, Il mercante di stoffe. Insomma, ma hai fatto tante cose, cortometraggi, ma l'ultima cosa, la cosa che in questo momento credo che alla quale tu sei più affezionato, è questo progetto di altissima qualità che è Medea, con il teatro patologico di Dario D'Ambrosi, con il quale poi tu hai debuttato, niente proprio di meno che, a Tokyo. Sì, a Tokyo. Hai capito, Bersanetti? Sì. Tokyo. Stiamo lì su A Trionfale. Mentre noi stiamo alla BB Sound a fare Peppa Pig e American Dad, il nostro amico Somma sta a Tokyo. Mi parli un po' di questo teatro progetto. Patologico, perché è una cosa molto interessante. Il teatro patologico ovviamente si occupa di disabilità, no? Di ragazzi diversamente abili. È stato fondato dal mitico Dario D'Ambrosi, che tu conoscerai, che lo porta avanti da diversi anni ormai, e che si occupa di disabilità con questo teatro integrato, che è entrato a far parte anche nelle università, da Tor Vergata in poi sta entrando anche nei corsi universitari. Serve ovviamente a sostenere il percorso di recupero di questi ragazzi. Le malattie, la diversità sono di tutti i generi, dall'autismo, la diversità, la sindrome di Down, insomma, tutte. e che sta negli anni portando dei grandissimi risultati a questi ragazzi. Io ho visto personalmente il cambiamento negli ultimi 3-4 anni. Io faccio parte un po' di questo gruppo, ogni tanto do una mano come tanti altri colleghi, diamo una mano, e ho visto effettivamente questi ragazzi che sono rinati grazie alla musica terapia, il teatro, la parola, teatro come terapia, lo psicodramma, insomma, non esatto. Aiuta poco. E quindi Dario li porta in giro per il mondo, Dario D'Ambrosio, di questi ragazzi. Lui è un regista, attore straordinario, conosciuto anche all'estero, soprattutto in America, a New York, al Mama, al Caffè Mama di New York. Adesso infatti questo percorso è iniziato al Quirino di Roma e poi proseguirà tra l'altro in settimana in Puglia, ad Andria e a Barletta, per poi approdare al Franco Parenti a Milano, sempre come idea, sempre come idea, il 5 novembre, e poi appunto a New York nel Palazzo di Vetro nella giornata mondiale sulla disabilità psichica, che sarà il 4 dicembre. Che ovviamente noi attori professionisti ci mescoliamo, autofinanziati, lo apro chiudo la parentesi, sì, assolutamente, sì, sì. È importante, perché anche chi ci ascolta, se magari qualcuno è interessato a sostenere questo teatro, esatto, può farlo, che è... insomma, esatto. Perché i ragazzi anche loro spesso si autofinanziano, le famiglie spesso si autofinanziano, per cui comunque è un percorso straordinario che, vabbè, è inutile dirti l'esperienza mia personale quanto si è arricchita umanamente e quanto è bello il rapporto con questi ragazzi, è inutile che ti dica, insomma. C'è America Schiavo, che è una la mia idea per eccellenza, adesso ci sarà Celeste Moratti, la figlia del presidente Moratti, insomma, si alternano personaggi anche interessanti in questa scuola. Di sono teatro. Quelle persone che finalmente servono come talent per sottolineare qualcosa di interessante e di importante. Serve sempre qualcuno che dica, metta all'attenzione non solo un prodotto pubblicitario per venderlo di più, ma anche un prodotto del genere, se così si può chiamare, per metterlo in evidenza con l'evidenziatore proprio, il giallo fluorescente, dire signori esistono queste persone, tramite questa operazione staranno meglio, esatto. I vostri figli possono migliorare. Proprio ieri, proprio anch'io al teatro a Ostia, dove sto finendo, a proposito oggi è l'ultima, alle 5:30 faccio in tempo ad arrivare tranquilli, dove c'erano anche loro, fanno un teatro patologico, nel senso che sono 3-4 persone con la sindrome di Down, delle sì. Persone autistiche, qualcuno sulla carrozzella con dei ritardi eccetera, ma tutti sono migliorati. Perché nel gruppo la normalità diventa la cosa straordinaria che dice sempre anche D'Ambrosio, è che quando stanno bene loro, stanno bene tantissime persone, le famiglie, i condomini, le persone che ruotano intorno a questo problema. E quando siamo stati in Giappone, che invece è una nazione che tende un po' a nascondere la cosa, perché ancora è così, per tanti motivi che appartengono alla civiltà giapponese, si è aperto un mondo per loro. Infatti il pubblico all'Istituto di Cultura Italiana era 99% era giapponese, alla fine hanno chiesto tante informazioni per portare avanti questo percorso. Perché non sembra, ma hanno anche loro dei problemi in famiglia, che sono esenti da un problema. Anzi, sotto certi aspetti ce ne hanno pure molti di più, proprio certo. Perché non vengono affrontati e risolti anche, quindi viene anche un po' sviluppato il problema. È bello, questa è una bella contaminazione, ecco, questo è un virus che è bello spargere. Esatto. Ti senti... Ma molto felice, sì. Molto felice. È anche questo. Puoi guardare negli occhi questi ragazzi che ti sorridono. Ti dà la forza. Che non hanno pregiudizi morali di nessun tipo e quindi ti trasmettono questa cosa. Quindi quando vai in scena pure tu non hai più queste barriere, vai giù pulito, semplice, diretto, e la gente apprezza. Ogni tanto do questa provocazione, dico, dovrebbe mancare pure a qualcuno di noi quel pezzo del DNA che fa sembrare, fa essere le persone più buone. Io conosco delle persone con la sindrome di Down che metterei a capo di qualsiasi cosa, nel senso la loro bontà, non si sono preconcetti, esatto. Le barriere, c'è l'amicizia, c'è l'affetto. E profondo. C'è la verità. C'è verità. Se te dice, esatto. Va c'è male, verità. Te lo dicono. C'è verità. C'è guarda, è pazzesco. E ti ridà veramente una forza e capisci quello che hai. Perché ognuno di noi non si ricorda, forse, che ha tutto. Adesso, punto di vista. Per aggiungere qualcosa di strettamente personale a questo discorso, io dico sempre che noi siamo fortunatissimi. Assolutamente sì. E ogni tanto puoi mettere da parte quelle che sono i lavori, il lavoro, l'attenzione, l'incasso, i soldi, mettersi un po' da parte, mettersi a disposizione, bisogna farlo, non solo per queste cose che ci siamo detti, ma anche per ritornare qualcosa, no? Ma certo, alla vita. Ma godiamoci mentre ci siamo, quel cromosoma mancato. Certe volte sembra che se ne siano aggiunti altri 5 che non ci sono, ed è così, io lo dico sempre, cioè godiamoci le cose mentre ci siamo. Anche tu facciamo un mestiere che ci fa avere un applauso, che ci fa riconoscere per la strada. Quando dicono ti dispiace Sebastiano se faccio una foto, io credo che tu gli dica mi dispiace il giorno che non lo mi chiederai più questo. A volte per io mi chiamo le persone, vuoi fare la foto? Sì, non c'avevo vergogna a chiederti, vieni qua, te preoccupare. Mia moglie pure mi dice ma non te l'ha chiesto? Sì, ma te la faccia. Ah, vedi? Sembrava che, ma non ti conosco, ho viaggiato tanto, è così, con te, è così. Ed è sei sempre stata una persona deliziosa e disponibile. Comunque, poi, siccome si vive pure di lavoro, faccio pure uno sguardo dal ponte. Vabbè, quello sì. Quello è. Attenzione, perché questo è uno spettacolo. No, insomma, lo ponte è roba tua. Tu pure. Non l'hai visto? Miller. No, non l'ho visto. Io vidi quello con Michele Placido, che devo dire anche per lui è il suo core business. Quello. Io diciamo, emulo un po', cerco la figura di Michele, un po' mi è, insomma, adoro. Sai, è un attore che adoro. Voi siete simili da un certo punto di vista, anche tu sei un uomo del sud, no? Sì. E il fatto che tu sappia recitare bene, sappia sporcare quella recitazione, sì, per come è stato scritto, esatto, è giusto, cioè io non ci riuscirei. Beh, questo è siciliano poi, sì, certo, mi calo in una sicilianità che non è mia, però certo, mi piace, però molto. È il suono, no, è sporcare. Come sì, faceva Mendola quando doppiava Toro Scatenato, sì, che sì, non sì, era sì, siciliano napoletano, o okay, che era un italo americano, che è così è stato scritto. È così, non è, è che è stato scritto è, in siciliano, così è stato scritto da Williams in qualche da Arthur Miller, sì, da Williams. Abbiamo avuto l'adattamento di, scusate, Masolino D'Amico, adesso la regia, certo, di Enrico Lamanna. Riprendiamo da gennaio, se puoi venire da Torbella Monaca, dal teatro di Torbella Monaca, e poi giriamo tutta l'Italia ancora, insomma, è il terzo anno che lo portiamo in giro. E sono Eddie Carbone. Sì. Forse venne a domandare ma scusa perché tu che diceste di mia davanti a tutti, allora ce l'avevi proprio tutto. Che non è giusto fare chissà a mia che ci mise un tetto sopra la testa un pane in tavola come nei Vangeli, eccetera eccetera eccetera. Bello. Hai fatto un lavorone, allora, bel lavoro, sì, bel lavoro, grande soddisfazione per la prima volta. No, se c'è in qualche vita mia siciliano in ascolto, signori, questo è siciliano, è catanese, catanese poi. Perché bravo, poi è catanese. La recitazione quella per antonomasia quando ma fai perché gli emigranti di Uno sguardo al ponte venivano da Citrezza, quindi la zona del Catania, per cui Palermo non ce ne abbia non è mai. Palermo, no, non è Palermo. Palermo è più difficile, nel senso che è un modo di parlare, è un suono complicato, suono questo allungo di vocali. Sì. Sì, e soprattutto insomma devi essere di quelle zone o studiare molto, come hai fatto tu, perché poi tu sei origine campana. Io sono, l'hai detto tu, Castellammare di Stabia. Castellammare, vissuto, vero, cresciuto, pasciuto tra Castellammare e Napoli, insomma i miei miti dell'infanzia erano Annibale Ruccello, Raffaele Viviani, che sono di Castellammare di Stabia, insomma sono cresciuto con quella roba lì. Vedi che campanilismo che c'è, dottor Bersanetti. Io l'ascolto beato. No, no, ma è bello, questa osmosi mi piace moltissimo, insomma avere delle persone con le quali poter fare questo ping pong emozionale e drammaturgicamente alto, infatti cerco di parlare il meno possibile. Dall'altra parte in che zona siamo? No, qui siamo a Roma, qui. Roma, Viterbo, Ferrara. Noi siamo più o meno delle stesse parti. Ma noi io ho papà di Reggio Calabria e mamma di Livorno. Per però siamo cresciuti qua tutti e due. Sì, sì, sì, devo dire di sì. Tu invece c'hai proprio questa origine. Beh, io fino a 22 anni sono stato a Napoli, da Castellammare a Napoli e poi a Napoli-Roma e poi vabbè. Però insomma, tu sei della Roma o del Napoli? No, io sono del Napoli e simpatizzo per la Roma, però sono del Napoli. Non ho capito perché ho chiamato st'ospite. Come vedete sono un democratico che dà lo spazio giusto alle persone che mettono, senza preconcetti. Va bene, restate con Napoli noi. Adesso in questo momento non lo so, io so che la Lazio era prima, per un paio d'ore saremmo stati primi, ero sicuro di questo. A tra pochissimo con Sebastiano Somma, l'amico Gianni Bersanetti, e ascolteremo altri due ragazzi, va bene? A tra poco. A tra poco, grazie. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, 15, 16 primi e 30 secondi, tanti messaggi. Scusa Pino, prima dicevi che le donne sono in tutto più brave degli uomini, come quando parcheggiano, va bene, dai, non sempre, perché l'abbiamo convinte noi che 20 centimetri è molto meno, allora sbagliano. Pino, posso far provino per i sottotitoli al dialogo tramite SMS? Ah, dai, smettila. Va bene, ora so come vestirmi ad Halloween, da Fox Mulder, dice Marco da Brescia, credo, BS Brescia. Non BS, sì, non è Bressanone, non c'entra, no, Brescia. Allora si stanno alternando i nostri amici, stiamo facendo questo bel percorso, come dicevo prima, un bel ping pong, ma sempre con la voce come leitmotiv, come massimo comune divisore, un minimo comune multiplo, decidete voi. È la donzella, l'unica donzella di oggi. Esatto. Oh, senti. Oh. Oh, oui. Buon pomeriggio. Sei pronta per la radio? Buon pomeriggio. Oh. Ah, in realtà c'è un perché. Beh, io ci lavori. Esatto. Io lavoro in radio. Sei sentita. Che radio, puoi dirlo? Radio Pico. È a Mirandola. Immagina, sembra presa in giro. Sembrava scontato, ma poteva anche essere Radio Sasso a Marconi. Esatto. Com'è la situazione a Mirandola in questo momento? Beh, diciamo che dopo il terremoto si sta ricostruendo pian piano. Mancano ancora tante cose, comunque siamo molto indietro, purtroppo. Però, insomma, per colpa vostra, signori. Non per colpa vostra. No. Radio Pico perché? Il Pico della Mirandola. No, può essere Pico il picchio. Può essere Pico piccola. Ok. Signori, Bersanetti è uno che ha studiato. Attenzione. Che difficoltà. A me lo dici? Uff. Che sono conduttore, dovrei dirle io queste cose? E per cui Bersanetti non verrà più ospite. Ma dichiariamole queste cose. Chiami gli amici e te mortificano. Sebastiano. Pico della Mirandola, io dico. Io dico Pico della Mirandola. Anch'io. Vero? È la risposta definitiva? Ma sì. Dillo tu, non lo so. Sì, okay. È la risposta esatta. Si è presa al tavolo. Si è presa al tavolo, Seb. Ma che fai? Guarda Nancy, da sì, donna, però... ma dai, questi gemellaggi. Ma chi è Pico della Mirandola? Esatto. Era un signore, dell'epoca passata, che viveva a Mirandola. Diciamo che era un umanista, un filosofo. Sì. Imparentato con gli Sforza. Lo stava dicendo e non gli ho dato il tempo. È vero. No, 2-0, perché io ho detto pure che era imparentato con gli Sforza e tu non lo sapevi. Anche perché tu non hai Rachele che ti suggerisce per microfono cose. Che dovrebbe stare con me essendo un'altra quota rosa, invece no. Ma quale quota rosa? Sì, è un partito. Ma quale che ci sta a mettere uno contro l'altro, sta signorina? Senti, tu devi fare il provino, no? Sì. Ti metterò in difficoltà estrema. No. Ma come no? E lì devi dimostrare quota rosa. Se mi fai la radiofonica mentre mi reciti, io ti caccio via da questo studio. Se cominci a fare essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile sofferire nell'animo le acerbe frecciate di un'altra giusta fortuna, ecco. No. Che cosa hai portato, Mirandola? Ho portato, dato che sono donna, il monologo iniziale della verità è che non gli piace abbastanza. Ok, il film è leggero, film, carino. Sì. Va bene. Vuoi una musica di sottofondo? Io non l'ho scelta, se c'è... Nancy è la prima puntata che viene, credo anche l'ultima per lei, vuole scappare. E adesso Rachele suggerirà insieme a Mauro Meconi. Ecco, ce l'abbiamo? Allora, ripeti il tuo nome e cognome e cosa porti? Ilaria Cuoci. La verità è che non gli piace abbastanza. Ma scusa, ma sempre qual è quello di prima, che avevi cambiato? Ma gliel'ha detto Mauro, ma perché? No! Ma insomma, per non fare confusione, sto creando delle per uguaglianza. Sì, ma sto creando nervosismo in sala per la signorina. Dai, facciamo concentrare la signora Mirandola. Ripresenta di Cuoci. Avanti, il nome e cognome. Ilaria Cuoci, la verità è che non gli piace abbastanza. Una ragazza non dimentica mai il primo ragazzo che le piace, anche se le cose non vanno tanto bene. Ma di solito c'è lì qualcuno che offre perle di saggezza. Oh tesoro, lo sai perché quel bambino ha fatto quelle cose e ha detto quelle cose? È perché gli piaci. Ed è fatta. È così che iniziano i nostri problemi. Sapete cosa vuol dire questo? Che siamo tutte incoraggiate, anzi programmate, a pensare che se un uomo si comporta come un perfetto stronzo, vuol dire che gli piacciamo. Perché ci raccontiamo queste stronzate? Possibile che sia perché abbiamo troppa paura. Ed è troppo difficile dire l'unica verità che è davanti agli occhi di tutti e che non vogliamo vedere. La verità è che non gli piace abbastanza. Mi dispiace tanto dirtelo che sei stata brava, però te lo devo dire perché devo essere onesto. Devo essere intellettualmente onesto, asettico, brillante, carina. Addizione, che dici, Gianni? No, anche l'addizione, mi dispiace per i maschietti, ma era stata la migliore. Eccola. Le giuste, la S giusta. Allora io faccio sentire Nicolas Cage fatto da Bersanetti. Oddio, una vita in fa. Rusty il selvaggio, film di Francis Ford Coppola. Rumble Fish in originale. Rumble Fish, tanto per andare in contrasto a ste donne facciamo sentire come eri qualcosa. Tu. E Nicolas Cage Rusty il selvaggio. Piccolo, piccolo. Ho capito, però vai Nancy. Come va? Bene. C'ho qui un regalo per te. Per me? Quello sono io alla mia festa quando ho compiuto 5 anni. Ero carino anche allora. Grazie. Vuoi qualcosa, Rusty James? Cosa? Serve aiuto. No, credo che dobbiamo uscire. Ehi, a me non va di menarti. Ho detto che dobbiamo uscire a chiacchierare. Ma ti sei visto? Datti una guardata. Sarei scorretto adesso. Non sei in condizione di fare a botte, Rusty James. T'ho detto che non ho parlato di fare a botte, non ti volevo menare. Ho detto che voglio menarti. Ho detto dai, usciamo. Con Riccardo Rossi era Matt Dillon. Non era Matt Dillon, forse. Riccardo lo faceva. Riccardo Rossi non faceva Rusty. No, infatti, Rusty pensava no. Era Gianni Giuliano. Forse. Senti che ti dico. Uh-huh. Beh, giovani. Mickey Rourke, allora Riccardo Rossi. Grazie, Meconi, che ci. Sì, sì, Mickey Rourke sicuramente la protagonista era. Sì, anche lì una migliaia di attori pazzesca. Cioè, i primi film di Francis Ford Coppola, ragazzi, la 56esima strada. Sì, anche lì, lì faceva Esteves, che poi è il figlio di Martin Sheen. Esatto, sì. Bene, abbiamo sentito un professionista in erba. Vabbè, eri giovane, in erba. Più di 30 anni fa questo film. Caspita, parliamo dei primi anni 80. Ho conosciuto Matt Dillon l'anno scorso a Catanzaro, un festival di Magna Grecia. È fidanzato con una ragazza italiana. Una ragazza italiana, e lui è una persona di una simpatia. Veramente alla mano, ma veramente alla sì, mano. Quello che diciamo prima, no? Sì. La semplicità sì. Fa ma parte molto, dei grandi. Molto, molto semplice, molto carino, veramente. Sì, mi hanno detto che sta spesso in Italia, sì, come sì. Il bravo Keanu Reeves, che ha una sorella ricoverata al Gemelli. Come da, no? Da tanto tempo. Se vive, sì, sulle panchine, ma c'è cioè, soldi per fare una guerra, però vive con grande onestà, con grande tranquillità. Vabbè, siamo tutti fatti così, noi belli... Americani. Voi belli. Noi, certo. Io, Matt Dillon, Brad Pitt, voi, quanti certo. Siamo? Non di più. La quindicina. Perché Nancy fa quella faccia brutta? Vabbè. Allora, eccoti qua, presentati. Ciao. Mi chiamo Marco Mancini, vengo da Rimini e ho 29 anni. Cosa hai portato? Ho portato il monologo finale di Io prima di te. Ah, bello, si piange. Leggero, sì. Ma si piange molto. Questo ragazzo ricco sulla sedia a rotelle, esatto. Lei che doveva soltanto di... aiutarlo, invece si innamorano, ovviamente lui decide. Ma non c'è nulla da fare, lui decide comunque di farla di togliersi la vita, di farla finita, sì. Vai, ripresentati e andiamo, mettiamo la musichina, c'è, benissimo. Presentati. Marco Mancini, io prima di te. Clark, sarà passata qualche settimana quando leggerai questa lettera. Se hai seguito le istruzioni... sarai a Parigi, su una di quelle sedie sempre un po' traballanti. Spero ci sia il sole. Ci sono alcune cose che volevo dirti e che non ti ho detto perché ti saresti commossa e non mi avresti lasciato finire. Quindi, eccole. Quando tornerai a casa, Michael Lower ti darà accesso a un conto bancario che contiene abbastanza per iniziare da capo. Non farti prendere dal panico non ti basterà per stare a gingillarti tutta la vita, ma dovrebbe legarti la libertà, almeno da quella cittadina che chiamiamo casa. Vivi con audacia, Clark. Metticela tutta, non ti accontentare. Indossa le tue calze a righe con orgoglio. Sapere che hai ancora delle possibilità è un lusso. Sapere che forse sono stato io a dartele è stato un sollievo per me. Sei scolpita nel mio cuore, Clark. Lo sei stata dal primo giorno in cui sei entrata con il tuo sorriso dolce e quei vestiti ridicoli, le battute pietose e la totale incapacità di nascondere ogni tua minima emozione. Non pensarmi troppo spesso. Non voglio che tu sia triste. Vivi bene, semplicemente vivi. Io sarò al tuo fianco ad ogni passo. Con amore, Will. Mi è piaciuto parecchio, sì. Devo dire. No, carini, devo dire, sono molto contento di dare questa possibilità in giro per l'Italia. Perché attenzione alle finali, vanno sui fiati. Sostieni, c'hai le attacchi sparati e poi. Sentilo. Meglio una finale poco chiusa. Però che arriva al cuore o meglio una finale molto chiusa? Parliamo sempre bello, di nella dai. Giusta interpretazione. Quello che purtroppo ci impone il microfono sì. È il timbrare alla fine. Nella giusta interpretazione, certo che se proprio devo. Se lui sospira, sospiriamo anche esatto, noi, certo. Certamente. Però per non fare l'errore che fanno gli altri, non tu, nelle fiction, dove fanno dobbiamo andare. Ti ho detto mille volte che sì, così sì. Non va. Capito? Cosa qui. Però ecco, non bisogna sedersi su quello perché poi il messaggio taglia ancora di più. Però sei giovane, l'hai fatta bene. Un film grazie. Bellissimo. Oh, poi guarda, di Rimini, non c'è, insomma, voglio dire, normalmente è difficile portarsi dietro qualche cosa. Tu stai studiando, però mi raccomando. Ho appena finito una scuola di un'accademia di doppiaggio con anche corsi di dizione e recitazione. Chi c'era che faceva da professore? Allora, professore c'era Rodolfo Bianchi, Massimo Giuliani. E adesso, proprio nuovissima, è arrivata Francesca Draghetti. Che vabbè, insomma. I signori professori. Sì, indubbiamente. No, almeno Rodolfo persone che non rughe. Rodolfo Bianchi. Sì, noi, quando capitiamo insieme con Rodolfo è un macello perché io sono lui 10 anni prima. Abbiamo fatto sto trono di spade insieme, sembravamo due che rottavano dentro al microfono. Cioè, stavamo a digerire, non è che stavamo a parlare. Dortmund era così, lui faceva così, si sapeva che cavolo stava a fare, una cosa pazzesca. Comunque ti posso dire una cosa, quanta bella gioventù che sto ascoltando oggi. Sì, vada, ce n'è tante, è quello che diciamo prima, bello dare la possibilità agli altri. Sì. Uno, perché hanno un'età diversa dalla nostra e non ci ruberanno mai le parti. No, ma anche perché sono decisamente meno bravi. Esatto, esatto, quella è la verità, no? Scherzo, La verità è che non sono bravi abbastanza, no, scherzo, invece no. Siete bravi ed è bello dare questa possibilità che magari noi abbiamo avuto un po' più, erano tempi diversi, ma c'era più possibilità, non si capisce il motivo, c'era solo Rai 1 ma potevi lavorarci, adesso ci stanno 100.000 televisioni e rischi di non farlo. Andiamo in pubblicità e passiamo l'ultimo blocco insieme a Sebastiano e a Gianni, è l'ultimo provino da fare e poi ci sarà le pillole salute vocale di Franco Fussi, a tra poco. Voice Anatomy. Eccoci qua, bentornati, 15:32 primi e 10 secondi in questo momento. Il mio amico Sebastiano mi ha fatto vedere che il Napoli è passato in vantaggio. Non sono più convocati, tutti convocati come l'altro anno, che c'era questa osmosi con loro, che io saluto tantissimo, bravissimi, straordinari. Mi mancano un po', anche se la Lazio da quando non li sento vince praticamente sempre, va bene così. Dunque, siccome c'è stato, forse ci sta salutando Ray Lovell, che lo salutiamo. Sì, abbracci, grande Ray. Può darsi che ci sta seguendo. Ah, che persona meravigliosa, laziale, che attore, bravo, pure laziale, ma non è stato quello, è un uomo straordinario. Grande. Ma quando una voce come Alberto Lupo, Amedeo Nazzari, Alberto Sordi, Tina Pica, Giuseppe Maria, vabbè. Sì, no, faremo delle puntate anche dedicate alle persone che ci hanno regalato tanto con quella voce e faremo ascoltare tanti brani, quello è già in scaletta. Buona domenica e buon pomeriggio, mitico e bravissimo dottor Pino, sei il numero, vabbè, ti ascoltiamo sempre. Gentilmente ci mandi un mega saluto, grazie, baci, soprattutto perché sono le ragazze del bar Tabacchi Rama, ma pure la pubblicità, a Portico di Caserta, vicino. Va bene, ti saluta qualcuno più Sebastiano, sì, da, ciao ragazzi. Gruppo ciao. Di ragazze, anche se lui è maritato, mogliettato e figliato, insomma, sì, sempre sì. Persone disponibili al gentil sesso, per carità, senza scorciatoie, sì, tu degli americani. Anche tu, idem, raddoppiato. Aggiungerei un altro. Bersanetti, vuoi salutare anche tu le ragazze? Ma certo, cioè, c'è pure mia moglie in ascolto, ma insomma, un saluto non fa male a nessuno. No, a questo punto c'è anche mia moglie e mia figlia. Insomma, che dici? Mia madre, pure tutte le donne. Vabbè, chiamiamo gli avvocati nostri prima di tornare a casa? No. Vabbè, dopo questo momento di insomma, ludico. Un po' ludico. Sì, vabbè, ci sta, ci sta. Anche perché c'è un giovane in attesa, in agguato qua, nel tuo studio. Sì. Tanti messaggi, raro sentire un romagnolo senza S pesante, bravo, da che film è tratto il suo brano e qual era Io prima di te. Sì, più passa il tempo e più luce il doppiaggio si somigliano, fiati, respiro, ritmo, spirito, nonostante la mole di materiale cui possiamo accedere con un click sulle personalità artistiche degli ultimi 100 anni, oggi si equivoca l'essere talentuoso con l'essere conforme, così ci si imbriglia in una miserevole scolastica troppo ansia da incollanza sociale. La cultura col K par che serva solo per esercitare snob critiche gratuite tra compiaciuti borghesucci travestiti d'alternativo trendy, seduti al tavolo Ikea mentre collettivamente si rimpizzano di pappardelle e orecchiette spedite da mamma al sud. Signori, no comment. Beh, poeta. Beh, sì, bella. Comunque devo dire che gli ascoltatori di Radio 24 sono molto attenti, molto attenti. E soprattutto sanno mettere in fila 4 parole messe molto bene, le quali non ho capito perfettamente. Sì, no, ho capito il discorso che faceva, non sempre, sì, il rischio di uniformare c'è perché c'è un ritmo incalzante ormai con queste fiction d'oltreoceano che alle quali possiamo dedicare meno tempo perché ti arrivano lunedì e venerdì vanno in onda, per cui il rischio di un adattamento un po' rapido e di un'interpretazione un po' superficiale, non sempre però. Non sempre. Insomma, accettiamo di buon grado tutte le critiche, poi soprattutto scritte in questa maniera. Assolutamente sì. Ascoltiamoci l'ultimo ragazzo talentuoso. Ciao. Di oggi, giovane anche tu, quanti anni Buonasera, hai? Buonasera, Lorenzo, 25 anni. Da? Roma. Quartiere? Quartiere. Ci devi pensare. Mi sono trasferito. Da sposato poco. Da poco. Sposato da poco? Sì. Pochi mesi. Con chi? C'è lei che ti sta riprendendo. Quartiere africano. Sta alle tue spalle la moglie. Ah, ecco. Quartiere africano. Ma quanti anni avete? 25, tutti e due. Tutti e due, cioè sì. 12 e mezzo e 12 e mezzo per uno, cioè 25 anni avete. Esatto. Da quant'è che siete scelta fidanzati? Di vita. Sì, certo, fidanzati non immaginavo una imposizione. Fidanzati 5 anni. E figli? Ne avete... Ancora no. Ok. Ancora. Sai come si fa? Te l'hanno detto, no? Dovrei, sì, giovane, sì, sì. Dovrei si sapere. Vabbè, questo dipende da lei, sta sorridendo. È bella questa, guarda che sono felici. Preso la metro da Libia. Da Libia, quartiere africano, diciamo, a Roma, Montesagro. Sì, esatto, quella zona lì. E cosa hai portato, carissimo marito George? Allora, ho portato una scena di JD da Scrubs. Ah, i medici, quelli, esatto, simpatici. Esatto. Vuoi musica? No, non c'è bisogno. Sì, ce l'ho, l'ho già comunicata. Benissimo, dovete dare sempre un obolo a Nancy, ovviamente. Sì, sì. E allora ascoltiamolo, ripresenta di nome e cognome e il pezzo che porti. Lorenzo Caroselli, JD da Scrubs. Forse ti stai chiedendo perché non sono venuto prima. Lo so che avresti voluto, anche se non lo ammetteresti mai. Normalmente io ucciderei per mettere piede qui dentro e tu cercheresti di tenermi fuori. E dico cercheresti perché alla tua ultima festa per il Super Bowl, a cui non sono stato invitato, ho avuto la fortuna di riuscire a vedere il secondo tempo proprio da lì. Ero il fattorino barbuto della pizza a domicilio che ha invitato ad entrare perché ho detto che ero un fan di Jerome Bettis, chiunque diavolo sia. Comunque ho cercato di convincermi che la ragione per cui non sono venuto qui prima è che ti sei presentato ubriaco al lavoro, ma non è per questo. Io avevo paura. Credo che dopo tutto questo tempo io ti veda ancora come il grande supereroe che mi tira fuori da qualsiasi guaio. Ne avevo bisogno. Ma questo è un mio problema, lo so, e me lo gestirò da solo. Credo di essere venuto qui per dirti quanto sono orgoglioso di te. Non perché hai fatto del tuo meglio coi tuoi pazienti, ma perché dopo 20 anni che fai il medico, quando le cose vanno storte, per te è ancora un duro colpo. E devo dirtelo, amico, insomma, sei il dottore che vorrei essere io. Bene, va bene. Bene, dai, sono bravi, sono carini. Studiate, mi raccomando sempre, non smettete mai, perché poi il doppiaggio è una di quelle sfaccettature abbastanza complesse di questo mestiere. Assolutamente. Che potrebbe migliorare un attore, insomma, anche gli attori italiani dovrebbero. No, intanto vi faccio i complimenti, molto bravo. Volevo farvi una domanda, voi due, ma c'è la possibilità di conquistare il tempo in un doppiaggio? Il tempo in una battuta? Conquistarlo? Conquistarlo è difficile perché i tempi sono quelli, sì, puoi rubare una virgola piuttosto che un avverbio, metterlo dall'altra parte invece che sì, dove... Sì, sull'espressione magari. Sull'espressione, allungare magari quella parola in modo tale che tu riesca a prendere anche comunque una labiale, anche se lui ne ha dette due. Se ci fai caso, Sebastiano, se ti è mai capitato di ridoppiarti, è difficile, più difficile doppiare italiano su italiano perché i tempi non saranno mai gli stessi. No. Se tu dici buonasera a tutti, quando ti vai a ridoppiare c'entra buonasera a tutti voi, signori, cioè c'entra, capito? Poi c'è un, secondo me, fatto molto importante che da fuori sembrerebbe secondario. È vero, i movimenti labiali sono indispensabili, ma più ancora gli occhi e la gestualità. Io se ti guardo in questo modo ti sto comunicando qualcosa e attraverso la bocca poi noi dobbiamo restituire quell'energia. Ma è solo che non abbiamo più il tempo di vederle queste cose, perché l'attore te lo dà dall'altra parte, se è un bravo attore, quasi certo, sempre sono bravi. Certo. Però ecco, attenzione a non fermarci solo sulla bocca. E la bocca sì, è importantissima, i tempi, il sincronismo labiale, ma tante volte più quello gli che occhi ti comunica che è lo, sono lo sguardo e la gestualità. È la... Sì, tu lo sai, no, no, c'hai un primo piano, Sebastiano. No, no, lo so, però insomma, mi fa piacere sentire queste cose, che sono utili anche a noi. Un'ottima domanda davvero. Beh, in bocca al lupo al vostro matrimonio, alla vostra storia. Che cosa fai tu invece nella vita? La moglie? Sì. Lavoro. Parla più fuori, vieni vicino al microfono, cioè vieni vicino a me. Tranquillo, c'è tuo marito testimone. E lavori dove lavori? A Monterotondo. Sono impiegata amministrativa nell'agenzia di trasporti e logistica. Va bene, sai che quando tuo marito poi diventerà un attore sarà frequentato. No, la gentaccia, no. No, avrai delle. È lì che dovrai dimostrare quanto amore c'è nella tua dolce metà. Guarda quanto è bella, tieni là di conto. Assolutamente, grazie. Allora, ormai mandano tutti i saluti che io devo salutare anche le loro ditte, ma mi sembra. Va bene, caro Gianni, salutiamo anche te degli Angels of the Night di Caserta. Ormai Caserta adesso ci saluterà in tutte le sue. Hai vedetato? Alla moglie con, esatto, il marito. È stato molto bello anche questo. E allora siamo arrivati alla fine di questo appuntamento insieme a Gianni Bezzanetti e all'amico, grazie, Sebastiano Somma. No, grazie a te. Volevo ripercorrere e ricordare questo teatro patologico che farà una bella avventura, sì, d'oltreoceano, sì, d'oltralpe, ma anche in Italia, al Franco Parenti. Sì, guarda, siamo proprio il 2 e il 3, siamo ad Andria e a Barletta. il 5 siamo al Franco Parenti, parliamo di novembre, e poi New York il 4 dicembre. Lì vengo anch'io. Dai, che ho dei problemi non indifferenti, per cui inseritemi in qualche modo. Poi lo Sguardo dal Ponte. Sguardo dal Ponte a gennaio, poi c'è Lucio incontra Lucio, che è un concerto raccontato sulla vita di Dalle Battisti, che di cui bello, curo anche la regia. E probabilmente potrebbe esserci una partecipazione anche in un film diretto da un signore, si chiama Claudio Insegno. Ah, conosco, è vero, mi ha chiesto il tuo numero di telefono l'altro giorno, sì. Perché in film lui ogni tanto si muove, a parte perché i musical Pino che sta preparando. Insegno ha un fratello, bravissimo, che fa teatro, fa il regista ed è veramente una persona molto bella. Adesso ha finito proprio Spamalot con Elio, Elio delle Storie Tese, Ice Spray. Lui tornava da Montecatini, mi ha detto sto andando a Montecatini, e io tornavo da Montecatini per un festival di cortometraggi, ci siamo sfiorati sui viaggi reciproci. Io manco lo sfioro anche più mio fratello, ma mi dicono gli altri quando lo incontrano. Allora, fra poco ci sarà Franco Fossi per la penultima pillola di salute vocale. Sapete, questo grande vocologo è l'unica parte che dichiareremo registrata, perché sta a Ravenna a terminare questi tre giorni straordinari ai quali ho partecipato anch'io, facendo una follia. Roma-Ravenna, partecipato a questa piccola convention di un'ora e un quarto, Ravenna-Roma, poi Ostia a teatro, eccetera. Bello. Al Manfredi. Sì, si fa tutto questo. Lì un teatro bellissimo, non ho mai visto il teatro a Ravenna, il Dante Alighieri, bellissimo, bello. Teatro all'italiana, tipo l'Argentina, e cercheremo di andarci. Gianni, noi dovevamo vederci in sala, non succederà la non prossima. Non succederà la prossima, ma succederà dopo ancora. Assolutamente sì. In bocca al lupo ai nostri amici e a te, amico. Grazie, mio. No, caro Gabbo, Sebastiano, te, Pino, un te. Bacio enorme a te col grazie. Più grande affetto che conosci. Grazie, di cuore anche a te. Un bacio da tutti noi al grande Ray Lovelock, pronunciatelo come volete. No, bello anche pronunciato così, come hai detto. Va bene, tanto c'è un grande affetto profondo. Un bacio a tutti voi, ma noi ci salutiamo poi con calma nel prossimo blocco. Va bene, grazie a tutti, a buona tra poco. Domenica. Ciao, grazie. Ciao. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, a Voice Anatomy. Ve lo devo dire, chiaramente questa puntata, questo blocco di questa puntata è registrato perché il nostro amico, il nostro medico, il nostro dottor Franco Fossi oggi è impegnato nell'ultima giornata. Saresti impegnato nell'ultima giornata a Ravenna di questo bellissimo percorso sulla voce che state facendo e che io avrei già fatto, ma non l'ho ancora fatto, perché insomma dichiariamolo, siamo registrati, però volevamo andare avanti con grande continuità per queste pillole di salute vocale, questi 10 minuti insieme che hanno visto già tanti protagonisti affacciarsi attraverso i microfoni di Radio 24 e di questa trasmissione. Mi sembra che un paio di puntate fa hai cominciato a raccontare un po' il riscaldamento della voce. Ecco, io riprenderei da quel discorso, che può essere utile, perché hai cominciato raccontando come sembrava un riscaldamento che potesse essere fatto in qualsiasi campo professionale, anche quello sportivo soprattutto. Certo, la muscolatura lo ricomincerei proprio, perché sono passate 2 settimane almeno da quel inizio di racconto, sì. Adesso lo riprenderei come ci si riscalda. Ogni muscolo che parte in azione a freddo ha una contrazione muscolare che crea una rigidità, quindi è per quello che riguarda la voce una rigidità degli organi fonatori, quindi una fatica fonatoria che va a creare problemi vocali in maniera precoce. Quindi è bene riscaldare sempre la voce, ma quanto deve durare un riscaldamento vocale? Di solito, se devo fare soltanto una prestazione di 5 minuti per cantare una canzone in un festival, oppure leggere semplicemente un brano, allora in questo caso posso riscaldarmi anche a lungo, anche 20-30 minuti. Però se la prestazione è lunga, cioè il concerto dura 2-3 ore, allora in questo caso è bene ridurre il tempo di prestazione di riscaldamento vocale. Inversamente proporzionale, esatto, praticamente, perché se no succede come a volte capita in qualche cantante lirico che in camerino si fa tutta la recita e poi la va a fare subito dopo sul palcoscenico, praticamente fa 2 recite a sera in pratica, perché una la fa in camerino e una la fa sul palcoscenico. E in questo caso l'ambiente in cui io faccio il riscaldamento deve essere un ambiente abbastanza umido, nel senso non deve essere un ambiente secco, se no mi si seccano le mucche. Cose. Non ci deve essere troppa polvere per evitare. L'aria condizionata secca la voce. Secca è vero? La voce, perché non c'è umidità relativa, deve essere un ambiente senza polveri, asciutto, non freddo, perché anche il freddo mi va a creare tensione muscolare, quindi inibisce un pochino la libertà di gestione della laringe. Va eseguito con calma e va preceduto quello strettamente vocale dal riscaldamento di tutto il corpo, quindi stretching delle spalle, del collo, del tronco. E per quanto riguarda invece proprio il riscaldamento vocale in senso stretto, basterebbero una decina di minuti con esercizi che la tradizione didattica ha ormai dimostrato ampiamente. Ci sono vari esercizi anche di riscaldamento che vengono usati dai maestri di canto, ma molti di questi hanno un significato specifico, noi lo chiamiamo di vocal tract semiocluso, cioè quando facciamo il trillo linguale, per esempio il piuttosto che il trillo labiale, e piuttosto che non il trillo col dito, stiamo facendo delle interruzioni, interruzioni di pressione che sonora che sta uscendo dalla nostra bocca, intermittenti. Sì. Questo va a creare sulla mucosa delle nostre cavità di risonanza una sorta di massaggio, e questo effetto massaggio tonifica le pareti mucose. Siccome per una regola di fisica acustica tutte le volte che abbiamo una mucosa più tonica abbiamo una risposta in frequenze, cioè andiamo a rinforzare maggiormente frequenze più acute, quindi armonici più acuti, la voce poi risulta più brillante. Sì. Mentre invece quando facciamo esercizi con un vocal tract semiocluso costante, tipo i muti, quindi oppure la lingua, il dorso della lingua appoggiato al palato molle superiore, la nang della sirena, di alcuni metodi come il voicecraft, stiamo dando una semioclusività, sì, costante, però in questo caso. Oppure l'esercizio con la cannuccia proprio normalissima cannuccia tenuta tra le labbra, sì, e vocalizzando che vibra. Questo perché questa cosa della cannuccia? Sempre per chiudere parzialmente il vocal tract. Oppure c'è invece un esercizio. Si possono alternare questi esercizi, oppure si sceglie una strada o l'altra? Sì, poi uno sceglie quelli che preferisce. Ce n'è un altro invece con la mascherina, cioè la mascherina da ventilazione, quelle da ossigeno, che tappi col palmo della mano, mm-hmm, e dentro la mascherina vocalizzi. Anche in questo caso è un vocal tract semiocluso costante, cioè c'è una pressione retrograda sul piano glottico che va a far stabilire maggiormente il piano glottico, quindi c'è una maggior stabilità della laringe. In più, il principio è: se io sotto le corde vocali ho pressione 5 e sopra canto senza niente, c'è 0 sopra, quindi 5 meno 0 fa 5, le corde vocali lavorano per 5, mentre invece se sopra c'è una pressione di ritorno, mettiamo 2, con la mascherina o con la cannuccia o quello che vuoi, lavorano meno le corde vocali. Lavorano meno perché 5 meno 3 fa 2, 5 meno 2 fa 3, certo, e quindi togli il lavoro alle corde vocali, le false corde sono più retratte, il vestibolo è più ampio, e quindi uno quando toglie la mascherina sente subito bilanciata la risonanza e voi, più avanti il suono. Cioè, poi vi rendete conto che cosa c'è dietro un mestiere, dietro il fatto di quello canta tutti i giorni, reciti, doppiaggio, il teatro, il canto, eccetera, e non perdi la voce. La stessa cosa, io questa cosa la sto urlando, e devo dire che questo ministro della pubblica istruzione, ministra Fedeli, è molto attenta, infatti cercherà di mettere nelle scuole, mm-hmm, un'attenzione maggiore quanto riguarda il teatro, questo coaching o parlare italiano, eccetera. C'è un'attenzione maggiore perché serve perché è importante. Uno la voce dice: so questa, parlo con questa. No, non è così, è importante, è fondamentale per qualsiasi lavoro voi facciate, l'interfaccia con l'altra persona o con un mondo di fronte a voi. L'interfaccia vocale è fondamentale, perché dalla voce tante volte tu capisci chi hai di fronte. L'hai detto tu una volta venendo qui la scorsa stagione, io l'ho ripetuto a voce alta, che di uno speech solo l'8, il 10% arriva il concetto, il resto è voce e corpo. E per cui quanto è importante, e lo urlo sempre, non la bella voce, perché anche quella può stancare, ma la voce sana e le intenzioni sane della voce è fondamentale, nel senso, perché se io vi parlassi con la bella voce così per 2-3 minuti, voi farebbe più da sonnifero 20 gocce vere. Certo. Vi allessa serenamente, per cui questo riscaldamento è importante. Io lo ascolto con orecchie aperte, ecco, sì, il nodulo dell'insegnante, no? Considera che il 20% degli insegnanti ha problemi organici per le corde vocali, come l'8% dei loro allievi, cioè i bambini di scuola elementare, esatto, scuola primaria, dai 16 anni l'8% ha i noduli, perché vociferano in maniera istintiva, sbagliata, e si urla nei locali. Invece se uno sapesse utilizzare la voce, il diaframma, anche in locali rumorosi eccetera, uno riesce a spingere, a bypassare, certo, le corde vocali in qualche modo e a salvaguardare un esercizio per gli insegnanti, per, sì, esempio, che appunto utilizzano la voce parlata, sì, così come gli attori anche, può essere quello di contare da 1 a 50 con le labbra unite, come per muovendo bene la lingua, come per cercare di pronunciare bene i numeri, senza aprire le labbra, però senza aprire le labbra e tenendole in contatto senza premerle eccessivamente, in una cosa tipo, provo a simularla, sì, non si è rotta la radio, tranquilli. Dopo, quando vado a parlare, sento che la voce ha una proiezione, esce più libera, è una proiezione diversa, è più facile, è più morbida, quindi vado a stancare meno, perché vado a anche la tua adesso è uscita più pulita di prima, per esempio, più dopo alta, è più alta di prima, sì, di posizione, è più libera. Ma ho contato solo fino a 20, però. Esatto, secondo te fino a 50 mi cantavi un'opera. Però vedete quanto è importante, infatti c'è molta curiosità, devo dire, questa trasmissione quando è nata 3 stagioni fa, diciamo, vabbè, nascerà e morirà dopo un attimo, invece ci siamo accorti anche noi e la gente che ci ascolta, che non solo c'è la curiosità ovviamente ludica di sentire l'attore, il doppiatore, il cantante, la voce eccetera, ma si è costruito quest'anno ancora di più un atteggiamento di tutorial, proprio voluto fortemente anche parlando con l'amico Sebastiano Barisoni, proprio per cercare di aiutare chi dall'altra parte vuole farne un uso corretto, e mi sembra giusto questa avventura. Senti, parlavamo ancora di riscaldamento, abbiamo pochissimo, un minutino, sì, ancora, però non so se... C'è un ultimo esercizio che invece è con una cannuccia più larga, di 10 mm di diametro, di 33 cm di lunghezza, che viene inserita in una bottiglietta d'acqua da passeggio, da mezzo litro, vuoto, riempita a metà, a metà. Ci si vocalizza dentro, mentre vocalizzi vedrai che fa l'acqua, fa le bolle, certo. E questa è la metodologia che è stata da una famosa soprano americana indicata come un ottimo cosa che gli ha salvato la, ma addirittura, la vita, sì, sì. Pensa che bello. E per quanto tempo si deve vocalizzare all'interno, tenendo sempre la bocca, veramente bocca bastano 2-3 minuti, sì, in questo caso è una sempre in estensione. Sì, sì, posso fare scale, arpeggi o glissandi, ascendenti e discendenti. Dentro, bastano 2-3 minuti, come anche per la mascherina, bastano 2-3 minuti, non c'è bisogno di farlo di più. Molti mi chiedono, sì, ma quanto dura? Dura tutto il tempo della prestazione vocale successiva. Ma cioè è come semplicemente un dispositivo per da aggiungere eventualmente a quello che è il riscaldamento che uno fa normalmente, solo che ti dà il vantaggio che ti riduce il tempo di riscaldamento, perché è veramente molto più veloce ed efficace. Capito? Ecco, allora, per chiunque avesse voglia di riascoltare, sapete perfettamente che esiste il podcast da scaricare gratuito su Radio 24, riascoltare bene questi tutorial, se sei un insegnante, se sei un comunicatore, se sei un dottore, un cantante, quello che sei, avete a disposizione tutto questo per ripercorrere questi esercizi che ci ha regalato il nostro amico Franco Fossi, ormai lo chiamiamo semplicemente Franco, non più dottore, sei ormai di famiglia. Signori, andiamo avanti con la nostra trasmissione, stavolta in diretta, e ringrazio ancora Franco. La prossima settimana invece ti tocca tornare. Alla prossima, allora. A tra poco, Voice Anatomy. E invece no, siamo nell'ultimo blocco, questo era dichiaratamente registrato, abbiamo deciso così di salutarci con Franco Fossi. Dopo questa bellissima puntata vi do appuntamento a domenica prossima con tantissimi ospiti. Grazie come sempre per volerci così bene. Ciao, a domenica.